creare una tazza di cereale con il cereale con all'interno il latte. Perché lieto? Lieto, lieto. Dopodiché scendono eventualmente anche Ora e Miff per prima a fare colazione. Ora invece portano pergamena a al vescovo, perché pazzo. Appunto, c'è un attimo di discussione fra Adone e Miff, in cui Adone dice: ma vorrei che rifacessi di nuovo la tua magia per farmi addormentare, per sogni, eccetera. Ho paura che i miei sonniferi non hanno più effetto. Guardo nella camera. Però vedono che appunto Ora sta maneggiando col vescovo, diciamo un po' andiamo a vedere. Ora la bella idea di: ma senti, leggi la pergamena che leggevo io per fare i buchi, vediamo che cazzo succede. E indovina un po', il vescovo lo fa, prende il marapenni e recita di nuovo la pergamena, si crea un buco grosso così nella chiesa. Nessuno è sorpreso per la terza volta. Dopodiché nel mentre Nivel che appunto raggiunge gli altri, ancora distrutto dall'hangover della serata prima, passato a bere con Miff, e appunto parlando Miff decide di fare questo esperimento dei sogni sia con Adone che con Nivel. Riassumo velocemente i sogni. Adone diventa un dio più o meno, siamo all'inizio di questa fase, va, quello è riassunto. E invece Nivel rivede un po' la sua vita passata e anche il contatto con, non mi ricordo il nome, non Arceus, Perseo. Come era? Heracles. No, è un nome greco, Arceus. Causata a quanto pare da qualsiasi cosa sia successa con Adone. Sembra che Adone comunque sia stato un catalizzatore per fare in modo che questo Heracles comunicasse con Nivel. Comunque, i sogni si concludono più o meno bene, diciamo, e la sessione termina. Non mi sembra. No! Lieto! No! Che cazzo dico! Lieto! C'è una cosa solo. Lieto è andato in biblioteca con Ora e non mi ricordo bene cosa è successo, sarò onesto, ma la sessione finisce con Lieto che con qualcuno carino dice: stavi cercando questo, un quaderno azzurro, e l'uomo che ride tenendo questo quaderno. Aggiungendo una cosa in più, con Ora che è spaventata a morte e che è diventata bianca come un lenzuolo. This is important. Un fantastico strumentopolo che diventerà utile in seguito. Esatto. Sono indeciso su che musica mettere. Metterò questa. Parti prima con Lieto? Sì. No? Sì, cioè, sì, ditemi voi. No, secondo me è la cosa giusta. Parto con Lieto per primo. Sì, che va col culo. Certo. Giustamente io devo aprire col culo. Non credo dovrei fare dei roll. Questo... morirai e basta. Questo lo dici. Voglio ruppare questa per il momento. Sì, ci stavo. Scusa, per fare vibe. Dimmi quando ci sei, Ika, che parto. E ci sono. Ok. Riprendo la scena da un secondo prima. Ora ti ha afferrato il braccio dicendoti di fare attenzione. Tu l'hai ignorata e sei andato avanti. Oltre l'ultimo scaffale c'era questa persona, incredibilmente più alta di te, così tanto che riuscivi a vedere solo la sua faccia, la sua bocca sorridente e non il resto del suo volto. Come se ci avesse un'ombra sulla faccia, come se il tetto proiettasse un'ombra e quindi non riuscissi a vedere. E vestiti neri, non riesci a definirli, cioè come se fosse un blocco unico, molto iri, e in mano tiene un libro azzurro che abbiamo, we fucking do, we do have it, ok, il colore non è proprio giusto, ma il simbolo sì, il simbolo è corretto, e questa persona è incredibilmente alta, È forse quello che cercavi? Ora ti tira, mentre prima che tu possa reagire a questa cosa, e con un filo di voce dice soltanto: dobbiamo andarcene. Potrebbe essere quello che sto cercando, che non lo controllo, non lo posso sapere. L'uomo ti porge il libro. Prendo il libro e guardo di fuori. È paralizzata. E vabbè, io prendo il libro e noi andiamo di là, Grazie. Non dice niente il tipo. Un attimo, che si è bloccata la musica. No, ok, è partita. Sta sorridendo silenziosamente e non vedi i suoi occhi, quindi non sai se c'è effettivamente uno scambio di sguardi, però è girato in direzione di Ora e Ora è paralizzata nella sua direzione e lui dice: se la tua amica non ha obiezioni. Io tipo una gomitata allora. Lei striscia via insieme a te, lentamente. Ok. E cosa vuoi fare? Poi ti dico cosa fai. Ok, direi che dal mio renowned senso di ho ritrovato la fede, mi metterei a pregare per chiedere che cosa fare. La situazione è strana e io cerco la guida. L'uomo, che è dietro di voi, ma riuscite a sentirlo, sentendo la tua preghiera, anche se la dici tra te o tra te il tuo spirito guida, commenta con: molti libri spesso contengono le risposte a quello che cerchi. Succedono due cose contemporaneamente, la 3, se consideriamo che ora io sto per cambiare musica. La prima cosa è che apri il libro in una pagina a caso, alla prima pagina come lo apri? Lo leggo a caso, letteralmente, lo apro. Non lo sfogli. Si stiamo aspettando tipo la dinamite, cioè, ok. A questo punto, vista la reazione di Ora, è proprio tipo... Ci siamo! Hai avuto una buona idea. La prima immagine che il libro non sai cosa contiene perché lo apri proprio lo apri a caso, quindi non hai idea. Quando lo apri vedi un'immagine viva, come se non ci fosse il segno che separa le pagine, ma fosse un filmato che ti spara flash alla faccia e quindi sei all'interno di questa cosa. E il vibe è quello di un ricordo, come se tu stessi vivendo un ricordo. Il ricordo che vivi in questo senso è questo. Ci sono due uomini, umanoidi quantomeno, sopra un tempio, il tempio identico a quelli cubici di marmo che hai visto, solo in attività, cioè con tutta la gente intorno, con degli strani meccanismi che li sovrastano, insomma, non abbandonato. E questi due uomini stanno volando sopra questa struttura e uno ha un numero elevato di ali, ora non riesce a calcolare se 8 o 16, comunque un sovrannumero rispetto a qualunque cosa tu abbia mai visto, qualunque animale, e l'altro sembra fatto di metallo e si stanno scannando, diciamo. È un flash, dura una frazione di secondo questa cosa, ma ognuno degli elementi di questa immagine che ti ho descritto ti rimane impresso nel cervello, tanto che se chiudi stanno gli occhi, nel senso di stanno combattendo. Sì, si stanno ammazzando uno con l'altro. Sì, sì, sì. E tanto che se tu ora chiudi gli occhi riesci a rivedere questa immagine perfettamente, quasi a poterla ridisegnare. Cioè, se Alieto fosse capace di disegnare, sarebbe in grado di ridisegnarla perfettamente. Sei in grado di creare delle immagini in altri modi, delle incisioni con la lava, puoi ricreare una copia esatta di questa cosa. Quando alzi lo sguardo dal libro, dopo aver visto questa cosa, ti accorgi che è passato del tempo. Ok? Cioè, a te è sembrato di vedere questa immagine per una frazione di secondo e poi alzare subito lo sguardo. In realtà ti accorgi che è passato del tempo, perché ora non è più nella posizione relativa a te in cui era, ma è molto più indietro. È attaccata alla finestra che dà sull'esterno, quella con le sbarre, ok? Che faceva da muro, da lato, da parete della biblioteca. Davanti a lei sta camminando molto lentamente, in realtà, l'altro uomo, che sorride in maniera maligna, ok? Prima era un sorriso neutro, cioè non riusciva a dargli, era iri perché era immobile in quella posizione, ora invece ha proprio il feeling di essere cattivo o comunque qualcosa di sbagliato, e tu riesci a vedere solo la schiena dell'uomo, quindi non vedi la faccia, non vedi la parte davanti, e noti che ora sta guardando ovunque, quindi non solo la sua bocca ma in varie parti del suo corpo, ed è terrorizzata, è completamente out of her mind, e senti che l'uomo dice: eppure non dovevamo più vederci. Cosa vuoi fare? Direi che chiudo il libro, block, slam chat, e vabbè, grazie, penso che di aver trovato quello che stavo cercando, prendo ora per la mano e cerco di andarmene, tipo. L'uomo che ride è tra te e ora. Ok, la raggiungo, cerco di passare tipo intorno e dire tutto e ora. Hai questo feeling che girargli intorno sia una cosa lunghissima. Lo fai, cioè ci riesci, ma ti sembra che per fare quei due passi che ti servono per girargli intorno ci hai messo un'ora. Ok? Proprio una cosa, una distorsione temporale assurda. Quando finalmente sei davanti a questa persona, è esattamente come te l'avevo descritta prima, cioè c'ha il sorriso, non è più un sorriso maligno, è il suo sorriso neutro, e non riesci a vedere il resto della sua faccia. E dice soltanto: oh, ma io ho già finito quello che dovevo fare. Si gira e inizia a camminare nella direzione opposta all'uscita della biblioteca. Ora che faccia? È come se le avessero strappato via tutto il sangue dal corpo, è completamente un cadavere ambulante, è paralizzata, è immobile, con gli occhi sbarrati. Hai visto qualcosa? Lo conosci? Ora sbatte gli occhi due volte, come se stesse cercando di far rifluire il sangue al cervello. Si gira verso di te e dice: ho visto troppo. Prende un marapenny dalla borsa. Noti che sul marapenny c'è un triangolo. Sì, vai, divertiti. Intanto dice la frase che c'ho scritta qua. Dammi un attimo. Fosto yelos, e un raggio di luce trafigge il marapenny in maniera impossibile, cioè non sembra partire da nessuna parte, ma trafigge il marapenny, diventa un cono che distrugge la finestra alle sue spalle e lei si lancia di sotto. Ok, dimmi. Vorrei essere lì. Cosa? Corro tipo alla finestra, ma dai, tipo, se è sopravvissuta, a che piano eravamo? Tipo, cioè, eravate all'ultimo piano, l'edificio è o 6 o 7 piani, dovrei andare a controllare, comunque meno di 8 più di 5, perché 8 sono i palazzi degli studenti e questo era l'ultimo piano. In ogni caso, da 6 piani, adesso vediamo quanti danni prende. Ha ha ha! Dai, porca troia, ti vedo un po' sulla tensione. Direi che è morta. Morta. Come sapete, esiste la meccanica delle memorie. In questo posto. Dito, utilizza una cazzo di memoria. Non puoi far morire ora così. Ma potevo usare la magia per farla. Il suo tempo, rewind al tempo, cazzo. Sì, è morta nel senso che il corpo è morto. Portandola a un reviver c'è il 50% di possibilità che la riporti in vita. Però avete poco tempo per fare questo genere di operazione. Dimmi cosa fa Lieto, che poi cambiamo scena. Lieto va a cercare l'unico necromante che conosce. Ottimo take. Quindi esci dalla biblioteca. Sì. Ok, la biblioteca ha un sigillo, se ti ricordi, la sezione proibita. E noti che la magia di Ora, quella che ha fatto il cono, ha creato un foro nel sigillo. Ok, altrimenti non era possibile uscire dall'edificio. Guardando il sigillo noti che effettivamente questo blocco che c'è è interamente diffuso sul piano, tranne che nel punto in cui ha fatto il buco. E il numero di persone era già sceso, perché nonostante il buco aveva calcolato che lei era uscita, e il numero di persone all'interno della biblioteca scende a zero, quindi ci sono due posti disponibili. Tutte cose che puoi segnarti, insomma. Certo, ma e corri giù dalle scale e poi ti riragiungo dopo. Andiamo agli altri. Comunque lo nera, Lo so. Per gli altri. Triangolo e lo nera. E sì, la frase che ha detto non è proprio quella, allora. Però vabbè, è uguale, resta tutto corretto. Dice una frase in una lingua che non comprendete. Che non comprendo. Sì, in realtà ha detto un'altra parola. Sì, sì, non era proprio quella la frase, ho letto la frase di Pruzurk. Infatti. My bad. E siete. Aspetta, avevi fatto il riassunto prima, quindi siete tutti e tre nella stanza di sopra, non eravate ancora usciti. L'evento che vi ho raccontato di Lieto succede circa le 10 e mezza di mattina. Ok. Da voi sono le 9, 9 e un quarto. Ah, ok. Ok, bene. Potete fare quello che volete, cioè avete avuto tutte le interazioni con i sogni, con fra di voi, insomma. Sì, dovreste essere tutti e due svegli adesso. Adore, tutto a posto? Nivel? Scusate un secondo, che mi chiedo una cosa che mi sono dimenticato. Io l'ho visto tutto il sogno di Nibir oppure no? Sì, tutto. Sì, ok, perfetto. Guardi sì. Ok, perfetto. E carina la musica, ma non c'è tra un cazzo. Vai. Nibel sta ancora sognando, è rimasto ancora nel sogno. Padone, appunto, si gira per che te se ne dice Domanda, ma Mif non l'aveva svegliato? No, praticamente Nibel aveva chiesto di rimanere qualche minuto ancora a sognare. Avevamo... No, aspetta, no, è un problema di comprensione mio. Cioè, più che altro, come vuoi che facciamo? Vuoi che Mif ti svegli? Vuoi continuare a dormire? Cioè, giusto per capire un attimo come comportarsi. Ma perché se lasci tu il sogno, finisce l'incantesimo? No, cioè non per forza. L'incantesimo è castato, volta... posso interromperlo, tutto qua. L'ultima volta eravamo rimasti che io rimanevo sul tetto lì per una decina. Esatto, per, e che finché non chiedevi a Mif di svegliarti, lei sarebbe rimasta da parte. Sì. Esatto. Cioè, ti ho detto, lasciami qua per una decina di minuti e poi fai tu. Sveglio. Ok. Effettivamente allora vedi che Mif è ancora impegnata nell'incantesimo, Adone, e niente, Mif ti fa, mi ha chiesto come hai sentito un po' di tempo, quindi magari aspettiamo un attimo. Vorrei raggiungere gli altri alla biblioteca, quindi magari quando abbiamo appena finito ci sbrighiamo e andiamo da loro. Un po' distaccato Don in questo momento. Tu perché tutto bene? Vedi che ti fa tipo il bombastic side eye, no? Allora risponde: certo, hai visto anche tu i contenuti del mio sogno, quindi direi che sì. Va bene. Ottimo. Se avrai bisogno di altre volte, insomma, fammi sapere. Non oggi, sono a secco. No, oggi direi di no, però sicuramente tu potresti aiutarmi. Poi Mif tiene ancora addormentato Nibel e ti fa questa uscita a bruciapelo. Lo sai che se diventerai Dio, lieto ti dovrà mangiare, vero? Hai pensato a questa cosa? Ma vedi che sto pesando un attimo le sue parole e dice: non sono certo che Ed riuscirà a sviluppare le sue capacità da avatar prima che io riesca a diventare un dio. Shot fired. Infatti shot fired. Mif vedi che alza un sopracciglio, no, e fa: non ti pensavo un uomo così sicuro, a quanto pare hai dato non l'impressione che dovevi dare fin dall'inizio. Mif schiocca e diciamo che Nibel pian piano si inizia a svegliare, cioè non è un risveglio repentino, è come se tu ti svegli dal tuo sonno di mattina, normalmente. Adone comunque un attimo, ne riparleremo. Allora, vi faccio la panoramica, sono le 9:20 diciamo, e siete ancora al piano di sopra. Se vuoi andare in biblioteca lo puoi fare, devi dire a loro cosa devi fare e basta, esatto. E scegliere la strada. Esatto. Tra l'altro, oggi puoi fare questa cosa magnifica di guardare la mappa. Vabbè, finita la scena della prima, posso vedere la luce? Scusa, devo andare, c'è la... È già la seconda volta. Ok, allora, non ho capito. Noi adesso siamo tipo là, ok? Dobbiamo arrivare lì, va bene. Prendiamo la strada per il fiume. Mif appunto vi guarda entrambi e vi fa: io avrei una certa urgenza ad andare in biblioteca. Vorrei trovare alcune cose, vedere se riesco ad accedere alla sezione proibita. Allora? Sezione proibita. Ah, ok. Adone dice: beh, anche io avrei un certo interesse. Esatto, magari riusciamo a trovare qualcosa. Mif, vedete che allora, cioè, si alza subito, vi guarda e fa: andiamo. Vuoi venire con noi, Nibel? Siete andati in biblioteca, avete detto? Sì. Esatto. Perché no? Magari possiamo prendere il giornale prima di... È vero, è un nuovo giorno. Un blasetto, riprendo il giornale oggi. E invece andiamo a prenderlo! Mif fa proprio... sono talmente tanto abituata che sia lo stesso giorno da veramente troppi giorni che ero dimenticata, forse... Che il tempo passa. Che il tempo passa, esatto. Bene. Avete capito qualcosa del tizio che è comparso nel mio sogno? Mif vedi che incrocia le braccia e fa: sono perplessa di quale sia il... come sia situato nel tempo, nel senso, quando parlava era veramente tanto criptico da quel punto di vista, quindi non ho capito se magari è una cosa che è già successa, ma succederà anche dopo. Sembrerebbe una persona del passato che è già morta. Esatto. Parla del futuro, è un po' strano. Infatti. Io sono incuriosito da quello che ha implicato, principalmente, il fatto che qualsiasi, diciamo, il mio sogno comunque gli abbia permesso di entrare in comunione con te. Quello mi incuriosisce molto. E poi guarda, sì. Guarda te, Mif, fa un sorriso, dice, magari le mie capacità di sogni si estendono oltre a quello che immaginiamo. Che lo so. Forse posso entrare in comunicazione con altre persone, posso entrare in contatto con altre persone. Più utilizzerò nei romanzi, più sicuramente riuscirò a performarla meglio, quindi è tutta pratica per me alla fine. Quindi tutti i due usano più di quello che mi ha detto quel certo che era questa. Posso farlo? Hai mai detto sì. Testuali parole. Dominerà la terra e chi vi dimora, ma una bambina di umili origini prenderà il tuo cielo. E queste, da quello che mi ha detto, sono le parole che la persona che Heracles, la persona dalla quale Heracles è stato ucciso, ha ricevuto. Adonai ci pensa un attimo e dice: io purtroppo a me non mi vengono in mente chi potrebbe essere questa persona con gli incolte. Non ho idea nemmeno io, purtroppo. Magari l'unica idea, che l'unica persona di rilevanza che penso, una bambina di umili origini, mi viene in mente subito da pensare alla principessa, ma è molto distaccata e sconclusionata come... La principessa, primo, perché ci dovrebbe, cosa ci fa da Pera? Secondo, la principessa di umili origini, quella dell'impero, intendi? Fare un check di storia. Facciamo un check di storia. No, perché Silvio evidentemente se lo ricorda. Io no. Esatto. Vai un check, altrimenti Merflane. Spero faccia uno. Guarda, potrei con un riccio. Ho fatto 6 più... Aspetta. Se hai meno di 10 l'hai fallito. Storia... Che cazzo è storia? 3. 9. 6 più 3, 9, cazzo! Mansplain, prego. Allora, no, scusati, non lo sai perché è una storia su una persona famosa di un altro paese. Ma infatti, cioè, non è una... Esattamente. Ma sì, io sì. Sara non me lo ricordo, quindi. Ci sta. Ma se con 9 su una persona del tuo paese l'avresti saputa, sta cosa. Scusa, vai. Sì, ma infatti è normale, cioè Adone non ti reputo ignorante. Però un po'... No, scherzo. Adone dice, la principessa non è di famiglia nobile, lei di fatto nasce da... Mi sembra comunque una famiglia vagamente agiata, mi sembra da industriali comunque, insomma, più vicina alla mia di posizione e tua piuttosto che quella degli ideali effettivi dell'impero. Non ti girare per questo motivo? Cosa? Ce l'ho con lei, non girarsi per nessun motivo. E appunto dove dice, appunto, mi è venuto in mente subito lei, sapendo quello che ho passato negli ultimi giorni, ma ripeto, guardando anche Nibel, è una conclusione assolutamente sconclusionata e irrilevante alla storia. Ma la principessa è un ruolo che conosco io, che conosce Nibel. È la principessa dell'impero Lutes, è l'impero più grande del mondo occidentale e praticamente tutti gli scambi commerciali, i treni li fanno loro, e se vuoi più informazioni devi farmi un roll di storia anche tu, perché essendo comunque una persona straniera non è, cioè non c'è motivo per cui tu lo sappia gratis. Sì, te lo faccio subito. Sì. Fatto 5. E già con i bonus 5. Forse hai sentito menzionare che ha a che fare con i treni in qualche modo e che è, non è la principessa di sangue, è la moglie del principe ereditario. Quindi non è di sangue nobile, non sai altro. In ogni caso, io penso che comunque i sogni siano strettamente collegati alla storia della persona singola. Di conseguenza, non, a meno che Nibel non abbia dei collegamenti con l'impero, mi sembra strano. Può essere possibile, non lo sto... sono d'accordo con te. Infatti, secondo me è qualcosa più riguardo Nibel, che lo sa del suo passato. Non chiederò se non si è disposti a condividere. Però sì, se volete continuare con queste sessioni, bisogna farlo, insomma, certi altarini verranno scoperti. L'unica bambina di umile origine che mi viene in mente in questo momento è mia figlia. Quelli della fabbrica erano venuti pure a controllare il suo corpo quando è morto. L'hanno tenuta per un po' prima di darla salva. Ti hanno detto il perché? No, assolutamente no. L'avevano fatto anche con mia moglie, però non sembravano così tanto interessati come con mia figlia. Dove sono sepolte, Nibel? Al cimitero che adesso non mi ricordo dove sta. A occidente, a ovest di Apera. Sulla mappa è quella roba quadrata in alto a sinistra. Cioè a sinistra, senza a sinistra, sa? Questo qua? Per me è tutto sì. A destra. Quando ci siamo incontrati l'altro giorno, per la prima volta, stavo tornando dal cimitero. Di che Mif fa un lungo sospiro e fa le mie condoglianze, prima di tutto. E secondo, è strano che vengano a controllare dei corpi di gente comune, mettiamola così. Quindi o dovevano essere affette da qualcosa a cui gli interessavano, oppure c'è qualcosa che tu, Nibel, non sai. Erano affette anche loro della mia stessa malattia. Su di loro si è sviluppata all'interno del corpo invece che all'esterno. E a te non hanno fatto nessun controllo? No, non sembravano interessati. Vale la pena dare un'occhiata, secondo me. Magari ci sono degli archivi, qualcosa, chi lo sa. Dove però? Nella fabbrica, nell'accademia, non saprei. Al cimitero dubito che abbiano documenti o roba del genere. Non lo so, non me ne intendo. Cioè, avessimo amici nelle forze dell'ordine, magari qualcosa riusciremo a fare. L'unica amicizia utile che mi viene in mente è Lieto con la mafia, però non so quanto sarei disposta a rischiare da quel punto di vista. A colpo sicuro nella centrale sicuramente hanno delle informazioni, ma... Certo. E l'amico tuo, Deimos, non è il pupillo della... Sì, è pupillo. La direttrice. Ho paura che farà qualcosa di stupido questo presentimento, però si può sempre chiedere. Magari lo possiamo trovare nel reparto naturale. Se andiamo in biblioteca possiamo fermarci lì e magari cercarlo. Se siamo liberi, non abbiamo altri impegni, volentieri. Certo. Dai, io comunque penso che passerò la giornata a fare un po' di ricerche, quindi più stiamo in biblioteca, meglio è. Certo. Vediamo un po' cosa riusciamo a farne. La biblioteca è la Zenith Auster oppure è da un'altra parte? Sì, è lì. Reparto Ontica. Conveniente. Reparto ostetrica. Dipartimento, ho detto reparto, non volevo correggerlo. Ok. Non è la stessa cosa? No. Perché no? Non è la stessa cosa. Ok, va bene. Ma cos'è non è la stessa cosa? Diparto e... Dipartimento e reparto. fatto la crasi. No, sono due cose diverse. Dipartimento credo sia sinonimo di distaccamento, reparto è più una roba di medicina. Sì. Reparto psichiatria. Ma povera Sara, non ha fatto l'università. Ah no, pensavo non ha mai avuto un PSO. Bella. Cagate a parte. Dovete uscire dalla chiesa ancora. Cioè voi avete fatto questo discorso. Ok. Avete buttato via un quarto d'ora, lo sapete. Adesso usciamo. No, no, no, è per dirvi che sono le 9:30. Scendete le scale e c'è il vescovo che è indaffarato nel riparare gli ennesimi danni che sono stati fatti, stavolta da lui, con l'inganno. Quindi mattone dopo mattone sta ricostruendo il muro. E vi fa un cenno, quindi se, non voi, se voi non dite niente vi fa andare e, non, e basta. Sì, sì, sì. Magari lo salutiamo, cioè lo avvisiamo che andiamo in... in Zenith. Ah, Liet è già partito? Sì, non ci ha aspettato. Vedi, mi fa molto salti. Sì, sembrava... Beh, scusa. Sembrava che avesse urgenza di vedere un libro in particolare. Chissà quale. E niente, cioè Mif parte. Tutti? Vescovo, prima di andare ti faccio una domanda che non so se ne ho già fatto e in caso se mi sono ricordato le chiedo scusa, ma quello è il suo nome intero? Dermon Skiliseto. Capisco. Quando torneremo penso che le farò delle domande. Non c'è problema. Come sacerdote tendo a non usare il mio vero nome. In bocca al lupo con le vostre ricerche. Ok. Arrivederci, buona giornata. Uscite e Mifa aveva menzionato di passare dal fiume. Tutti d'accordo? Cioè, passate prima dall'edicola e poi dal fiume? Esatto, sì. Più veloce. Dall'edicola vuole una moneta per il... Moneta? Che cazzo, non sono mica qua a lavorare gratis. Mana penny oppure staff? Va bene anche staff se vuoi. Vai staff. Vai a 6 di staff. E... ho 3... Allora, io mi immaginavo che il giornale lo leggeste velocemente. Tipo in questo caso mentre andate verso... Sì. Ok, quindi ci sono 3 notizie che vi colpiscono. Okay. Ve le leggo... Se volete ve le scrivo anche. Il giornale, non gli avevamo ancora dato un nome, glielo ho dato in questi giorni, si chiama L'Edera. Okay. Ed è il giornale di 17 ottobre. Tra 2 giorni è il tuo. Lumiera in fiamme, la centrale e la piaga d'oro. L'articolo descrive un grave incidente a Lumiera durante il quale sono morti numerosi operai e soldati. Il presidente della commissione per le centrali è stato ferito. Scusate, volevo vedere la reazione. Ma i dettagli della sua salute non sono stati divulgati. In seguito all'evento, tutta Lumiera ha manifestato un fenomeno apparentemente naturale, per cui certe parti della città si trasformano in oro e le persone nell'area che vengono colpite da questo fenomeno diventano statue del medesimo materiale oppure vengono parzialmente metallizzate. Non sono in grado di dire questa parola. La somiglianza con la piaga bronzea non è passata certo inosservata agli occhi della critica e del tizio che scrive l'articolo. La centrale di Lumiera è attualmente fuori servizio e la città sta importando manapenny da altre città per mantenere la normalità. Questa è la prima notizia. Volete commentarla o le leggo tutte? Ditemi voi. Leggile prima tutte perché c'è giustamente... Prima le leggiamo. Sì, sì. Ve le sto leggendo nell'ordine... Cioè questa è la notizia di prima pagina. Poi... Ok, ce ne sarebbero altre in mezzo a quelle che vi dico, queste sono quelle più interessanti. Aggiornamenti sulla piaga bronzea, la malattia non sembra espandersi ulteriormente, i controlli intorno ad Oclica e a tutto lo stato di Lutes sono severissimi, tanto che vige la legge marziale. Questa è una notizia nuova, non c'era ancora la legge marziale. I soldati sono legittimati a uccidere a vista chiunque tenti di attraversare il confine. L'impero sta assumendo soldati di qualunque origine per difendere i confini, quindi chiunque può arruolarsi nell'esercito adesso. Terza notizia, Accordi transenici, inizia la ricerca marina. La Zenitauster ha firmato accordi con città in tutto il Mar Senico, da Uraz alla Zmea, da Scirocco ai territori berber, per recuperare e studiare organismi nativi del Mar Senico. Una piccola commissione di giovani ricercatori è stata già inviata per istruire e preparare i collaboratori. Queste sono notizie di scienza. Ok, alla prima notizia vedete Miff che vi guarda tutti e vi fa esattamente quello che ci aveva detto ieri la... come cazzo si chiama? La sacerdotessa. Sacerdotessa di Diru, non credo di averlo mai dato un nome. No, infatti. Non so come fermare questa cosa, però non credo che noi possiamo farci nulla. Però è interessante come in questa città si sia manifestato in una maniera diversa. E che soprattutto il capo delle centrali è uscito ferito. Tipo, vedete Miff che si gratta un pochino la tempia, come per dire. E Adone anche dice, sono sorpresa anche dal fatto che il presidente della commissione si trovasse a Lumiere. Ah no, lui è a Lumiera. Ah, scusami, no, fermo. Lui è fisso a Lumiera? Adone non lo sa. Allora non lo so. Cioè non è una notizia di pubblico dominio. Ok? Ok, allora dipende. Che cazzo ne sai, Miff? E tu come lo sai? Miff, vedi che... cioè, questa volta non lo riesce a nascondere, no? Nella poker face. Vedi che è qualcosa che non avrebbe dovuto dire, che si è esattamente resa conto appena dopo che l'ha detta. Ok? Tipo, la vedi che è un attimo... Facciamo così, ne riparliamo dopo, d'accordo? Quando vuoi, Adone. E dei never did. Non ti ho sentito. E non lo fecero mai. No, vaffanculo, io adesso me lo segno, troia. Vai, segnatelo. Attenzione, che Miff può manipolarti i sogni, quindi... Choose your battles. Lo metto la pulce dentro la scatola, me la mando a me e poi ti schiaccio. Minor inconvenience, veramente. Poi quello c'hai 37 di febbre. Madonna, sì, infatti. Quello? Cioè, c'ha 37 di febbre da sempre. Cioè... È Sirio che sta lavorando. Ha fatto il suo lavoro, mi dispiace. Cercherò di toglierti l'inconvenience. Ok, volete parlare anche delle altre o... Qual era la seconda? Aggiornamenti sulla piaga bronza, che c'è la legge marziale. Sì, a leggerla vedi che Adone si preoccupa ovviamente un po' più di voi, essendo un pericolo del posto, insomma. Da che hai memoria, se ti interessa, non ti faccio rollare per sta cosa, non è mai stata stabilita la legge marziale nell'impero. Infatti, immaginavo, e anche sentire, ok, stanno accettando soldati sì. Da ovunque... Ho un certo peso. Allora sto pensando a una certa persona che adesso si trova in prigione. Però vedete che non commenta, perché non c'è molto da commentare. O niente che sia ovvio, insomma. Mi sembra una reazione abbastanza normale, in realtà. Visto la pericolosità della piaga. È vero. Su questo sono d'accordo, ma ovviamente... Ci sono implicazioni, ovviamente da un lato lo so che lo stanno facendo per proteggere e sta funzionando, anche se non viene la parola, anche se non do tutta la... non so parlare, anche se non... come si dice quando non dare la colpa, al contrario, quando dare... Merito. Non do tutto il merito, scusate, non do tutto il merito alla legge marziale o comunque al lavoro che sta facendo l'impero, ma dall'altro dico anche che mi preoccupa questo, ovviamente, per le implicazioni interne. Diciamo che già quando è successo quello che è successo ho notato e ho percepito la violenza e l'abuso di potere che può esprimere l'impero. Sapere che adesso c'è la legge marziale. incredibile come su questi giornali omettono qualcosa. Sto notando anch'io. Sento che ci sono delle informazioni omesse. Ti fermo, sono venuta a sapere delle cose. Magari quando siamo in un luogo un pochino più protetto ne parliamo. Okay. Comunque non lo sapevo, cioè, mi dice, non lo sapevo, ma avevo la sensazione che omettessero qualcosa. Anche in questa notizia sento che mancano dei passaggi. Quindi non possiamo fidarci neanche dei media. Con 400 anni d'anticipo. E infatti è per quello, cioè, Nibel è abituato a questo concetto. Cioè, già quando ero all'impero, leggendo i giornali e vivendo le vicende che venivano descritte, mi accorgevo di quanto nascondessero, mettessero cose. Speravo che qua non facessero la stessa cosa, ma sì, è per evitare il panico o chissà altro. Cerca. L'hai detto? No, ho detto circa, cioè nel senso che lo sa cos'è che stanno nascondendo. Beh, comunque, vogliamo proseguire? Sì, sì, beh, stavamo passeggiando. Sì, sì, sì. Ah, ok, stavo passeggiando, perfetto, scusate, ci sono più informatici. C'è l'ultima notizia che erano gli accordi transenici per la ricerca marittima intorno al Mar Senico, che sarebbe il Mediterraneo, per quelli meno faithless studiati. Questo è interessante. Tipo un mese fa una nave era stata attaccata da un mostro marino. Credo è abbastanza comune. Sì, nel senso hai detto una roba di una banalità. No, lo so, però... scusate. No, tranquillo, però cioè la notizia che dici te è un'altra. Ti dici la notizia della tartaruga? Sì. Non è la tartaruga che ha attaccato la nave, è la nave che ha ammazzato la tartaruga. Quella è una notizia. Chiariamo questo mio commento. Tranquillo. Vabbè. Puoi dirlo corretto? No, proprio non lo dico. Come vuoi? Non è pericoloso come il mare del nord, però anche il Mar Senico ha i suoi mostri. Sì, beh, sapere di più cos'è che si cela alla fine nelle profondità dell'acqua potrebbe aiutare tantissimo con gli spostamenti e non solo. Chissà perché hanno scelto adesso di fare le cose. Vabbè. Quella è la più importante delle domande. Magari cercano qualcosa in mare? Ho questo sentore anche io. Chi è che fa? Che sta facendo queste ricerche? Non ci sono. C'è scritto nell'articolo? No, ci sono. Si parla del Dipartimento di Magia Naturale della Zenithauster e delle città nello specifico che sono coinvolte dalla cosa, ma non si parla di nessuna persona specifica. Domanda. Quale città sono coinvolte? Allora, devi chiuderti gli occhi o comunque non guardare. Ecco, con calma, ecco, anche dirvelo dopo. Sì, ma perché ce le ho. Vabbè, dicevi Sirio? Io... La risposta secondo me no, ma ne so qualcosa, essendo dipartimento naturale, so alla lontana, cioè ho letto qualche articolo. Non ti risulta che ci fosse nessuno studio in merito? Cioè, quanto tempo è che non vai all'università? È un pochino. E non so quanto tempo è che non ti informi sulle notizie nuove. In questo lasso, per l'ultima volta che l'hai fatto non c'era niente a riguardo. Perfetto. Però quando diventano notizia, cioè gli studi ci sono già da mesi. Sì. Siamo anche in un'altra città. Magari metti che sicuramente Silas eventualmente ne sa qualcosa riguardo, io sicuramente no. Esatto, era più quello la logica. Cioè può essere come no. Ho una domanda. Mif trova qualcosa riguardo i medikit, cioè a livello di sanità? Lo sfogli velocemente. E ci sono solo dei trafiletti sulla pagina delle cose commerciali, okay, in cui si dice tipo sta salendo in borsa il titolo di, c'è una roba del genere sui Medikit, ma non ci sono i dettagli, okay, cioè sta salendo in grazie a delle spese. Sì. Sì, basta. Scusate, erano tre notizie: legge marziale nell'impero, la seconda. Quella era la seconda, la prima era che la lumiera è andata. Scusa, mi era. Ok, sì, sì, sì. E la terza era questa qua. Del... Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Ci sono altre notizie, ma sono robe un po' locali, un po' poco interessanti. E alcune città che ho trovato sono vabbè, come cazzo si chiama? Ce l'avevo sotto, l'ho persa. Vabbè. Non guardare. Ma più che altro penso Nibel si interessa se nel caso Apeira partecipa alla ricerca. E Apeira manda i ricercatori, perché essendo la Zenith Auster, ah, okay, è lui. Ah, effettivamente sì. Però non partecipa come città. Le città che partecipano chiaramente sono quelle lontane da Peira, perché non avrebbe senso fare uno studio, o meglio, non avrebbe senso fare uno studio comparativo in una città sola. Questi vanno proprio sì, sì, dalla Spagna alla Turchia, dall'Italia a Porto Leone, che è Nabatea, che sarebbe tra Africa e Asia. Okay, Turchia. Qua la geografia è un pochino diversa. È a est dell'Egitto. Ok. Se non ancora più sud. C'è il mare lì. Cioè non c'è il canale di Suez. Cioè c'è un mare che va avanti al canale sud. E cosa devo dire? Sono tutte città marittime, quindi tutte, sono tutte sì, città sì, che sboccano sul. Sì. Sono, uno è tipo il porto più grande della Zmea, uno è un grande porto di Uraz. Porto Leone è famosa per essere la più grande città dei territori berber e dintorni. In realtà è nella capsara, però vabbè, di quella zona lì. E le altre sono città più piccole, ma sono porti di zone lontane, difficili da raggiungere. Ok. Sì, Discord questi giorni fa cacare. Infatti stiamo laggando tutti. Sì, Discord è normale. Se va, sto laggando io, no, invece tutto. Io ho 17 di ping e Siro lo sento bene. Sì, no, ma è AWS che sta smattando. Ok. Ditemi voi se continuiamo o aspettiamo un attimo. Magari aspettiamo un minuto, giusto? Sì, finché sì, non sì, ci sentiamo tutti bene. Adesso sembra aver ripreso, cioè ci sono degli spike ogni tot. Sì. Ma già qua adesso ti ho sentito male. Diamogli giusto un attimino. Capito cosa ho fatto? Sì, ho capito. Ah, comunque ne approfitto. Ho messo il mio di Nibel, se vuoi lo rimpicciolisci di uno tipo. Ah, e lo usiamo come indicatore di dove siamo nella mappa, oppure se hai un altro token. No, va benissimo il tuo, così avete di stare a cercare un altro. I quadretti non sono coerenti, chiaramente, che sono i quadretti sì, sì, di una foto. Certo. Sono anche puoi farlo in realtà, puoi sì, sì, ma la foto è storta, quindi dovrei comunque farci sì, del lavoro. Però vabbè, non importa. Se vuoi puoi fare delle impostazioni della pagina, puoi togliere la griglia. Ah sì, giusto. E così puoi spostare il token liberamente nella. Sì, sì, sì, ci sta. Lo farò più tardi, adesso non voglio perderci tempo. Sì, vabbè, tanto l'importante è più o meno sapere dove siamo a livello. E siete più o meno lì, a metà strada tra il tempio e la Zenith Auster. Una cosa che sto facendo io nella mia campagna, se può aiutarti, è metto dei token nella mappa, nelle sì, zone dove ci sono punti indicativi, punti importanti. Sì, ci poi nelle impostazioni del token, se guardi sotto c'è il box di testo. Lì ci scrivi tipo tempio. Ah, ok. Tempio di Ruapeira. C'è la stanghetta lì dove che per fare show. E praticamente quando fai la staghetta di show, quando ci passi sopra col mouse anche noi giocatori, figo, esce fuori la scritta con il testo che tu hai messo lì. Okay. E poi tipo il token, sempre nelle impostazioni, tu metti il token, l'opacità a zero, così il token rimane invisibile, però quando ci passi sopra ti esce fuori il nome del boss. Figo, molto figo. Poi ci provo, se mai. Bello. Io la mia mappa c'ho così, cioè tipo qua c'è tempi di sto cazzo, qua c'è cioè la zona innevata, eccetera eccetera, quando ci passi sopra col mouse ti esce fuori il nome, però non vedi il token. Figo, figo. E poi lo farò con calma e rifaccio ripartire la musica. Allora, siete, faccio un pezzo di lieto, poi riprendo voi. Sì, sì, certo. Lieto, dica, sei stormed out a quanto hai appena detto. Comunque la scena è stata che hai visto, ora creare, lanciarsi di sotto e folgorare il muro con una luce impossibile e poi lanciarsi di sotto. Hai visto per un secondo il suo corpo a terra tutto rotto, cioè cadendo da un'altezza elevata, si sono spaccate le ossa ed era in una pozza di sangue. E a quanto ho capito sei stormed out dall'area, sì, senza girarti indietro. Sì. Perfetto. Scendi le scale, sono numerose scalinate, perché appunto va per 7 piani. E arrivato al piano terreno, devo chiederti cosa vuoi fare. Allora, so dov'è il dipartimento di... Sì. E allora mi dirigo là. Non vai nemmeno a vedere il corpo di Ora. Allora, realisticamente quanto tempo è necessario? Necessario per effettuare il rituale, il tempo che il necromante gli si avvicina e casta la spell, quindi parliamo di secondi, cioè di turni, non di minuti o ore. No. Quanto può passare al massimo prima che sia inutile fare? 24 ore. Però, tipo, più tempo passa, più diventa difficile. E quanto del cadavere serve? Tutto il cadavere? Ma in realtà no. Cioè, puoi rigenerare il cadavere e poi rianimarlo. Puoi farlo in due parti, questa cosa qua. Ok. Vabbè, sì, dai. Avvicinarsi al cadavere di Ora, I guess, non è una reazione così strana. Prevedibilmente. Volevo dire il superlativo, ma non mi viene. Prevedibilissimevolmente. Intorno al corpo appena caduto della donna si è formato un cerchio di persone, di curiosi vari, quasi tutti accademici e studenti più che altro, che sono notevolmente colpiti da questo fatto, non tanto dal suicidio, che comunque c'è il dipartimento di necromanzia a fianco, quindi quello è relativamente comune come fenomeno, ma dal fatto che questa è uscita dalla finestra della biblioteca proibita. Sì. Quello è strano, la gente è intorno, sta bisbigliando, sta discutendo di questo fatto qua. Nessuno la conosce, sta donna, ovviamente. E nella folla, un pochino in disparte, c'è una donna con i capelli bianchi, corti. Ce l'hai l'immagine? Sui 50 ce li ho l'immagine. Abbiamo un prestamolto! Mi dai un secondo? L'ho trovato. Abbiamo un prestamolto. La metto qua perché probabilmente cercherò tipo un'immagine, un artwork fatto da qualcuno. Usiamo lei come reference, l'ho messa nella chat del canale. Ce l'hai in disparte, sì, con abbraccia concerte con i suoi guanti lunghissimi che arrivano quasi fino alle spalle, che si sta mordendo il labbro mentre da lontano guarda la scena. cosa vuol fare Vieto? Mi spintono tipo tra la folla di quelli che sono lì davanti e arrivo sul cadavere di Ora e la guardo tipo. Non c'è nessun... Scusami. No, dimmi. Non c'è nessun dubbio che sia morta. Cioè, il suo corpo è spezzato in un modo che non permette la vita in un essere umano. Ok. Sì, era più per reaction che per logic, mettiamola così. E... mi guardo intorno, afferro il primo che mi sembra vagamente uno studente, un necromante. E... c'è l'imbarazzo della scelta. E gli chiedo se sa dov'è la mia amica. Mi sono già dimenticato che cazzo si chiama proprio puttana e ce l'ho scritta proprio. È facile perché è Ira invece che Ora, cambiamo una lettera. A posto. C'hanno dei motivi sti nomi, ve lo posso giurare. Sono certo, due certo. Sogni separati che ho fatto in cui c'erano due persone che avevano questi due nomi, quindi chiaramente... Sì, Ora mi è stato rivelato nel sogno, ma anche Ira? Sì. Adesso aspettiamo Era a... Ma Ira sarà uno dei peccati capitali. No, credo sia tipo Aira, non so. Vabbè. Vabbè. Sì, però al femminile, non importa. Ah, la ninfomane pazza, certo, la trovi nell'aula tot di necromanzia. Il dietro cuore. Perfetto. Prende questa informazione e la metti tipo da parte, c'è uno slot nel cervello. Arriverà il momento. Il cassetto che si apre, tipo clink. Arriverà il momento. Clink, chiude il cassetto. Ti pauso un attimo perché voglio vedere cosa fanno loro. Sì. Più che altro per vedere se arrivano in tempo o no, perché da qui in poi potrebbero essere arrivati se non fanno le tour. Mi rivolgo agli altri e dico, secondo me possiamo prendercela con calma. Ci sta. Mi rende più facile il tutto. Sì, effettivamente anche io ti voglio bene, però dici, ma cazzo, ci hai messo... Ti sei complicato la vita. Il pepe al culo. Ah? Il pepe al culo. Dicevo, state percorrendo la strada, è nuvoloso, quindi non piove ancora. Ancora. E state passando di fianco al fiume, quindi in realtà rispetto al token siete un pochino più a sinistra. E il luogo è pressoché deserto, cioè non ci sono avventori in questo luogo. E devi metterlo a passo, sa. Sì. Non ci sono persone in questo posto. E l'unica forma di vita che vedete sono gli animali nel fiume, che strisciano più che nuotare sul suo fondale. A parte questo, niente vi colpisce, non c'è niente di interessante. E siete anche relativamente lontani dalle mura della città, per cui è proprio un luogo mezzo spoglio, mezzo deserto. Ditemi cosa volete fare, se volete fare qualcosa o se volete proseguire in silenzio. Beh, Atone non voleva parlare di una certa cosa? No. Abbiamo perso Sirio. Paralizzato in questo sguardo truce. È stato Oraclan un mago. Sì, ma quasi una foto da LinkedIn, esatto, sembra. Esatto. Che c'entri quindi su LinkedIn, scusa? Gli assassini cerchi su LinkedIn. Ma posso dire, cioè, una persona normale su LinkedIn devo ancora trovarla, me compreso. Madonna. Esatto, sì, c'è proprio... Comunque vi informo che ho ufficialmente trainato l'algoritmo di X per mostrarmi tipo l'80% delle volte video e immagini di tanuki. Wow. Perché? Dei cane braciore. Sono molto contento di questa cosa. Bello. Sì, no? Pensa, io e Ika l'abbiamo fatto uguale ma con un'altra cosa. In separata sede, cioè... Gli è saltato il wifi. Cosa facciamo? Prendiamo 5 minuti di pausa? Direi di sì. Sì. Hai voluto di cioccolato? E oltre alla cioccolata ho i fagottini vegani, che non so se li puoi mangiare perché c'è il grano. Vabbè, andiamo a vedere cosa c'è da mangiare e ci prenderà 5 minuti. Ah, ho detto fagottini. A fra poco. Andiamo in là, si vede. Ma si muta. Stai divertendo? Sì. Bella la scena dietro. Il suicidio, ok, ci sta. Impazzisci talmente tanto dal suicidio. Non mi aspettavo che mi fosse un po' passato solo, ma cioè la mia tempo è la nostra situazione perché non si può fare. Sempre anche la finestra perché c'è da morire. Eccolo. No, no, sì, è la versione. Eccoli. Sarei alta come un Kinder Maxi. Mamma mia, anche io voglio. Confermi? Anche io. Ma a cagare a spruzzo facile. Ma devi resistere 2 ore. Però ti metto un vaso. Comunque sì. Nel momento in cui stavo, in cui sono crashato, stavo proprio per iniziare a parlare di questo argomento. Adone appunto dice, un po' che cambiamo, dice. Quindi, com'è che conosci il presidente della commissione delle centrali? Assumendo che tu lo conosca. Ti te la voglio. Cioè, chi è rosso e blu dei due? Adone rosso e Mifu blu? Perché rosso è il serial killer. Io comunque secondo me ci sta come colori. Chissà, vediamo che turn avrà Adone in queste sessioni. Poi l'azzurro dell'uomo che ride, delle cose, collegato. Comunque, oh, mio, è collegato. Sì, ho visto. Siamo in sessione, Mirko. Ciao. Ragazzi, mi muto, scusate. No, no, stai pure, però. Ciao, Mirko. Vai, ce l'ho. Com'è che conosci? Vedi che mi fa un attimino in imbarazzo, no? Quindi, cioè, guarda i monti, il mare se lo vede, cioè, tutto il fiume, ma guarda che bel lago che c'è lì. Non c'è un lago. Guarda che ti guarda così. Era una pozzanghera, ragazzi. E niente, mi fa spallucce e poi fa, sì sì, ho avuto modo di vederlo. Così, all'uniera. Scusa Vianic, apro una parentesi. Per la conoscenza che ho io comunque di come funziona la commissione. Cioè, conoscere così a caso il presidente della commissione della centrale mi sembra un po'. Anche perché non è tipo segreto. Hai la reazione corretta, non è segreto nel senso che è un personaggio pubblico. Cioè, il suo volto viene stampato sui giornali, che ti piaccia o meno. Ok. Però tutti i suoi whereabouts sono effettivamente un segreto internazionale. Infatti. E vedi che Adone non se la beve, e appunto questa razione dice: il presidente di solito viene a un sacco di sicurezza attorno, comunque la sua posizione viene tutta nascosta per mille motivi diversi di sicurezza. Ci credo poco che tu l'abbia conosciuto per caso e semplicemente o cosa, soprattutto come l'hai conosciuto, perché si è presentato a te. Mentre vedi che ci pensa un po' e poi fa mia madre ha richiesto dei permessi speciali in quanto la produzione dei Medikit. Questi permessi speciali glieli poteva soltanto dare Sheris Duke, è così che si chiama, e niente, dopo aver insistito numerose volte ha richiesto il signor Brooke ha richiesto la mia presenza, abbiamo avuto un'interessante chiacchierata. Mettiamola è stato lui a chiedere la tua presenza. Sì. Adone ti guarda, non sai bene cosa farne della sua reazione. Non è negativa né positiva. Ha una reazione sicuramente. E allora Miff tutta fa il sorriso smug, tipo fa: cosa c'è? Non ti aspettavi che anche io potessi entrare qualche occhio? No, è semplicemente l'ennesima conferma di quanto tu sia pericolosa come persona. Ma prezzo che tu abbia paura di me. Le persone più normali del party che entrano, discutono fra loro. Certo. Lo dice il tipo che diventerà forse un dio. E Adone dice: appunto, com'è che voleva la tua... sapeva dei tuoi trascorsi in Gulak e della tua ricerca? Vagamente, sì. Vaga! Scusate. Ok, fammi. Adone questa razza, no, non è posseduto dallo spirito. Veramente. No, per un attimo... al posto di Adone appaio io un fotorealistico, che quindi è tipo una visione Eldritch Horror, quindi dico vaga. Madonna. Ok. Io e te che beviamo assieme. Vabbè, però Sara. Devi sputare perché era il tuo razzo. Ce l'ho fatta. Grandissimo. Ok. Ok. Appunto, Miff, cioè adesso la vedi proprio, insomma, che è tranquilla, non gliene frega più un cazzo, ok? Ti dice, sì, vagamente, abbiamo fatto una chiacchierata, sono riuscita a convincerlo, a leggerli, e a dare i permessi a mia madre. Vedremo quanto resiste. Hai fatto un contratto con lui? Rispondi. Biff tipo ti guarda e fa: non del genere che penseresti. Madonna, ti ho un pugno. Che cazzo di risposta è? Uno fa i cazzi tuoi, due. No, ok. Allora dice: che risposta è, Biff? Puoi interpretarla come preferisci. Non voglio interpretare cose come preferisco, voglio sapere come vanno interpretate le cose. Il patto è questo: finché mia madre riesce a rispettare le mille migliaia di regole che prima o poi non riuscirà più a rispettare, quando non le rispetterà più, io lavorerò per Brooke. Come suo apprendista, tipo. Vedi che Adone ride. In questo momento si mette a ridere e dice: questo è il numero di regole che devi rispettare. Non è vero. Adone ride proprio di gusto, dice: sono incuriosito, voglio Spero di riuscire a vedere come andrà a finire la tua storia, Miff. Miff non fa... sto curando la morte. Esatto. Miff fa proprio spallucce e fa, guarda, per quanto mi riguarda sto cercando di vivermi la mia vita il meglio possibile finché non mi schiererò con i cattivi. Ridendo e scherzando, siete arrivati in prossimità del ponte per la Zenithauster. Adone vuole chiudere il discorso dicendo: puoi sempre scegliere con chi schierarti, Miff. Non serve che ti schieri non per forza obbligata. Scelta, temo. Temo di non aver avuto scelta. Cioè. Temo di non aver avuto scelta. Te lo dice in una maniera molto pacata, però non come l'ho fatto io adesso. Sì. Cioè, magari adesso ce ne avrai uno. Ti fa un sorriso. Suicidarmi, penso. Foreshadowing? Suicidarmi e arriviamo da qualche oh, vediamo ora che cade dal palazzo. Questa è una scena invece di... Invece di ragionare per scelte, cosa vorresti fare? Io? Cioè... Sì. Guarda, prima di iniziare tutto questo pensavo fosse la via più semplice per capire cosa ci fosse dentro le centrali. Insomma, sai com'è? Quando sei a fianco alla persona che sa tutto, ci vuole un attimo ad avere più informazioni. Era il metodo più semplice, quello che mi allettava di più. Poi è un uomo particolare, degno di attenzione, sempre questo. Beh, hai ottenuto le informazioni che volevi, quindi... No! Qual è il tuo obiettivo adesso? Le otterrò, cioè, è questo il punto. Adesso, chi lo sa, sono comunque curiosa. Non... Poi vedete per la prima volta Miff frustrata, nel senso del si passa una mano sui capelli ricci e fa non lo so, vorrei non adempiere a quel contratto, onestamente. Questo è quello che vorrei adesso. L'importante è che, almeno per quanto riguarda me, e che non mi metti i bastoni tra le ruote. Non oserei mai, Yos. Porco due! Non oserei mai, Nivel. È stato liscio. Non oserei mai, Nivel, anche perché onestamente non avrebbe senso. Siamo tutti dalla stessa parte. Cincello. Ok, ripasso a Lieto perché secondo me avete fatto in fretta ma non abbastanza. Secondo me riesco a fare una bella serata, perché non rimaniamo a guardare le stelle un attimo? Vabbè, esatto, infatti. Sono le 9 di mattina. È una bella mattinata, perché non partiamo in cielo? Esatto, Arco a far passare il tempo e rimanere fermi a vedere il cielo che fa. Non dirò niente perché sto pensando a una cosa, ma... nessuno se ne è accorto, quindi sorvoliamo. Lieto, hai preso la direzione per l'aula che ti avevano segnalato. Il cancello di necromanzia si apre in presenza della tua spilla e puoi correre per i corridoi quanto ti pare, nessuno ti ferma. Sei circondato da fotocopie dello studente tipico di necromanzia, vestito di nero, introverso, strano, con qualche tic, qualche fisima, qualche roba del genere, così tanto che nessuno incrocia il tuo sguardo e puoi correre liberamente ignorandoli tutti. Dimmi se vuoi fare qualcosa di diverso. No. Perfetto. È quello che hai fatto. Spalanchi la porta per l'aula in questione e all'interno vedi solo questa ragazza che conosci, con il cappuccio tirato giù, intenta nel praticare delle incisioni sulla sua faccia guardandosi allo specchio. E lieto entra abbastanza trafelato, cioè tipo c'è della fretta e si vede. Arriva si ferma. Mi serve. Oh necromante, vieni questo. Lei si gira verso di te, poggia gli strumenti, dice: ok, ti segue camminando. Le prendo una mano e tipo la tiro. Non affretta il passo, ma la stai trascinando, quindi è costretta a muoversi più velocemente. Cambio di scena, arrivate, voi siete molto lontani, siete nella parte esterna, se avete la mappa davanti, è una grande piazza, voi siete all'entrata della piazza, quando sentite un boato, un flash di luce, e poi una persona lanciarsi dalla finestra e schiantarsi al suolo. Siete comunque a un chilometro di distanza, quindi voi vedete un puntino che fa così. Ok? L'avete visto anche voi? Tipo, mi fa gli occhi sgranati, direi di sì. Oddio, ma l'abbiamo vista? Oh, l'abbiamo vista? Oh, vabbè. Adone è giustamente un po' preoccupato, corre in quella direzione. Aspetta, forse è meglio che non ci mischiamo. Adone si ferma e dice, e poi pensa, beh, effettivamente è una scuola di necromanzia, qualcuno la resusciterà. No, stavo scherzando, andiamo. Tipo... Devo portare avanti questo gioco per tutta la sera, scusa. Mi fai ridere? Hai tutto il mio posto. Cioè, diverti, fai quello che vuoi. Non ho problemi. Ho capito, ma si suicida la gente per essere resuscitata? Che significa? Cioè, mi fa sì, è quello che fanno i necromanti! Dice proprio a Tony. Sono tutte così stressanti le università. Infatti! Sì. Andiamo a controllare. Sì, come... Vi muovete velocemente verso sta cosa, ma c'è comunque un bel distacco per arrivarci. Tanto invece che pensare che con una falcata di MIF ce ne sono 5 di MIF, tipo. Sì, è vero. Però, cioè, cosa fai? La abbandoni indietro? No, aspetti. Sì. E nel momento in cui siete arrivati c'è già una folla gremita, si dice, sì. Di tanta gente, di ogni estrazione, non tutti dell'ambito accademico, quindi o studenti o insegnanti o gente che lavora lì. Se Nibel può fare Mosè tra la gente senza problemi. E superando questa folla, voi tre vedete a terra una donna bionda con abiti dell'impero, riversa al suolo, con tutte le ossa fratturate in una posizione improbabile e in un lago di sangue. Nonostante le ferite, riuscite a riconoscere che si tratta di Ora. Non c'è niente. Sì. Faccio da spartiacqua, la vedo, dico. Merda. Mi giro verso gli altri. Dico. Non dico il nome. Faccio cenno con la testa loro e rimango zitto. Appena Adone si avvicina e vede Ora, vedi che subito si porta la mano sulla bocca, scioccato, e riesce però a mantenere un attimo di contegno, non si lancia sul suo corpo, però guarda visibilmente scioccato sia te che Miff. Miff si spegne alla vista del corpo di Ora, insomma, che giace lì morto, e fa bassa voce: l'hanno ammazzata? Una sorta di domanda. Io guardo attorno per vedere se vedo Lieto. In effetti, vedi Lieto tenere per mano una ragazza e avvicinarsi correndo da uno degli ingressi ai dipartimenti. Loro alza la voce, dice, dico, state lontani, il soccorso sta arrivando. Io cerco di fare spazio nella folla. Sono tutti molto più piccoli di te, quindi aderiscono ai tuoi comandi. È bellissimo. Sì, sì, sì. Eseguo. Aderiscono, eseguo. E fanno effettivamente spazio. E niente, cosa... Cioè, siete voi quattro, ora siete tutti e quattro insieme, più la tipa, ma c'avete un mucchio di gente intorno. Riusciamo, cioè, Miff tipo alza lo sguardo, vede qualcosa, da dove abbiamo visto apparire il puntino e cadere, no? C'è un buco, un metro di diametro. E guarda gli altri e fa, non può essersi buttata giù. No, cos'è che hai detto? No, no, indica il buco in modo discreto, ok? E fa, non può essersi buttata giù. Miff si ricorda che a quel piano la biblioteca. Non sei arrivata fino a quel piano? Se te hai visto l'entrata alla biblioteca, no, nel sogno. Nel sogno non era un posto reale. Non era un posto reale, sì, non era. Non sapresti dire okay, a che piano okay, era. Okay, okay, okay. Tra l'altro, hai sognato quella di. Ah, di Branziga. Sì, quindi okay. Al limite sarebbe il piano di quell'altro. Okay, ma comunque era un sogno, quindi... Ho capito. Scusami, io a questo punto vorrei... Every talk mi fa parlare nella testa alle persone, giusto? L'avevo fatto con la principessa. Sì, mi pare, lo riguardo per sicurezza, mi pare sì, ma sono gli altri che non possono parlarti nella testa a te. Esatto, esatto, il problema è che non possono parlare. Sì, non puoi parlare con i morti, con gli altri quello che vuoi, gli altri per parlare con te devono parlarti in un modo che conoscono. E allora a questo punto parlo nella mente a... Posso parlare contemporaneamente sia a Lieto che sia a Lieto, sia a Miff che a... Miff? A Nibel che a Miff? No. Direi di sì, sì, te lo faccio fare. Sì, sti cazzi. Ok. Casti every talk, allora, quindi perdi uno di fatica, eccetera, eccetera. Sì, e quanto si vede che casto every talk? Abbastanza, più cioè, che altro volevo perché... volevo farlo low key, però... Non hai un metodo per farlo, ma soprattutto sei in una scuola di magia. Cioè, la gente se ne accorge di questo genere di cose. No, allora aspetta, sì, hai ragione. Dimmi te. No, però cioè, la loro attenzione non è... presa più che altro da quello che hanno davanti. Sì, nel senso dipende cos'è che non vuoi far vedere agli altri. No, è che fa un po' strano che io sono lì e la cosa che casto è every talk. Siamo in sessione. Poi puoi stare, ma esatto, bravo. E no, a questo punto semplicemente mi avvicino a Miff e le sussurro nell'orecchio, che è veramente la cosa più low-key che posso fare. Dico, aspettiamo che Lieto sistemi tutto e dopo ci vediamo cosa è successo. Lieto con voi, siete tutti e quattro insieme. Lieto tutti insieme? È arrivato, cioè, coso, Limbe gli ha fatto spazio e è arrivato subito insieme. Ma non è già andato tipo via? È andato via a prendere la pazza ed è ritornato con la pazza per mano. Ah, avevo capito, mi si è preso ora io. No, ha preso e la pazza adesso cosa sta facendo? È lì. È la pazza, indico il cadavere di Oya. And do your fucking thing. Ti guarda e dice: mi hai fatto un regalo. Not quite, ne parliamo dopo. Devo prendere gli organi. No, recuperala! La voglio in vita. Non so resuscitare la gente. Ma che dico la puttana? Chi sa resuscitare la gente qua? Alzano la mano in 6. E che cazzo stavate aspettando voi? Si guardano fra di loro e il più coraggioso dice: ma se uno si ammazza in genere lo fa perché vuole restare morto. Vero? Poi in questo caso è caduta, dai, tipo, la balla che gli viene in mente, tipo. È caduta. Non ti faccio rollare, non perché ci credono, ma perché non gli interessa abbastanza. E soprattutto loro guadagnano crediti a resuscitare la gente, per cui, tipo, fanno morra cinese. E uno di loro vince e parte per primo a castare questa bellissima spell, che va, se il risultato è pari o superiore a 11. 13. Riesuscita con la prima. Ho bisogno di una canzone adatta, quindi mi dovete dare 2 secondi. Che so benissimo cosa mettere, oltretutto. E di certo non City of Tears. Benché sia una bellissima canzone. Sì. Non c'entra un cazzo, però. Oddio. Volevo mettere... Oh, Fortuna. Che non mi ricordo dov'è. Quanti minuti saranno passati, secondo te? Non ho visto l'ora. Non lo so, non l'ho guardato neanche io. Secondo me pochi. Pochi, ok. Dai, altri 2 allora. Vabbè, non la trovo, vaffanculo. Metto il tema di Maria. Sempre ridere il tema di Maria. Non deve far ridere, però avete capito qual è il punto. Fa vibe sta festa, no? Tutti d'accordo? Bene. Revive ti resuscita con metà dei tuoi punti vita, o meglio, ti rimette il corpo a posto abbastanza da permettere la vita, ma non abbastanza da essere al massimo delle tue forze. Questo vuol dire che le sue ossa si ricompongono, ma non è ancora in grado di correre, di muoversi tranquillamente. La mascella che si era slogata si riattacca permettendole di parlare, e in generale gli organi si aggiustano. Il necromante che ha fatto questa cosa deve essere bravo, perché è riuscito al primo tentativo a rigenerare tutto, e deve avere una certa forza magica, perché appunto è riuscito a vedere i tessuti che si rigenerano, eccetera, le ossa che si riparano. Ora prende un secondo per recuperare fiato, come se fosse stata in apnea per diversi minuti. Quando le si gonfiano i polmoni, il suo eloquio è incoerente, delirante, e quello che riuscite a sentire è qualcosa del genere. Non può essere vero, non può avermi abbandonato, devo togliere! E estrae dalla borsa che aveva, dallo zainetto che aveva, una lama, un coltello. Io le pinno le braccia a terra. Ok. Mi fai un roll puoi fare fisico pulito se vuoi. O se no sollevare. Sì, sollevare c'è più 11. Con calma, non mi ricordo. Sì, con sollevare va a 19. Eserciti una forza notevole, ma per tenerla ferma le spezzi le braccia, cioè le devi rompere di nuovo le ossa, perché altrimenti lei si libera. È completamente out of it e inizia a tirare delle testate per terra. Posso castare un Aeromancy un'altra volta? Puoi farlo per farla addormentare, non per farla... Per farla addormentare. Puoi farlo, però fai addormentare tutti. Mi giro verso Mif. Mi giro verso Mif e faccio fallo. Ok, Mif esorda con: sto per castare un Aeromancy, chiunque non voglia essere coinvolto in... incubi che non vogliono né vedere né sentire né provare, se ne vada. Esatto. Molti dei presenti fanno il numero di passi esatti per essere fuori dal range. Okay. E quindi si forma un cerchio della dimensione esatta intorno a te. Ma molta gente se ne frega e rimane lì. Ok, perfetto. Mif, ho bisogno di sapere, però, prima che tu lo faccia, Adone, Lieto, cosa fanno? Sì, bastano loro due, perché Mif rimane lì e immagino che Nibel rimanga sopra a tenerla ferma. Se le braccia non riesce più a muoverle, le metto una mano dietro il coppino qua e l'altra sulla fronte, la tengo ferma la testa. Sì. Però rimani lì. Sì, okay. Rimango lì fermo. Finché non ha lanciato l'incantesimo. Adone? Cerco di resistere all'incantesimo se posso. Sì, la mia natura caotica mi farebbe rimanere lì. La mia natura di Adori, cioè non mettiamo altro. Fuoco, ho avuto abbastanza per oggi. Sono le 10 di mattina. E no, infatti Adone non è pazzo e se ne va. Potrei fare più quei fulmini in giro. con la direttrice lì. Sì, esatto. 4-4-8 praticamente. Lieto? Ma vai, va. È stata una scena molto lunga per Lieto. Io direi che non ci fa troppo caso. Quindi tipo non fa in tempo ad andarsene. Ok, capito. Lieto e Nibel mi rollano, mi ridare la difficoltà. Sì. Bisogna resistere? Sì, è resistere. Bisogna dialettica? Sì, sì. È una merda. Questa c'ha 400 di... 6 più 2 per M, più livello. Livello 6 al... 3. Ok, quindi 6 più 3 fa 9. 2 per M, basta vedere quanto è di M. 3, dovrebbe essere. Io ho fatto 9, spaccato. 6 più 3, 9 più... 2 per 3. 15. Ok, la difficoltà è 15. Siete andati allegramente nel regno di Morfeo. Insieme a 15 sui maghi, l'80% di quelli che sono rimasti nel cerchio. Cioè, se c'erano 12 persone, 9 si sono addormentate, cadendo dolcemente per terra. 3 rimangono in perituri, comunque sono maghi. E la gente bisbiglia più rumorosamente, cioè ora sono proprio curiosi di capire cosa cazzo state facendo, chi sono questi psicopatici che non vengono nemmeno dalla scuola a parte quello un po' scuretto. E cosa vuoi fare? Niente, non puoi fare un cazzo perché non puoi controllare il sogno, quindi semplicemente l'hai placata. L'ho placata, sì, okay. L'ho addormentata. Benissimo. Posso solo farle danno o recuperare vita, I guess? Suppongo di sì. Ti stai segnando il mago? Io cado. Io ero inginocchiato lì che la tenevo ferma e cado di lato sulla spalla di fianco ad Oro. Ok. Ti ha sognato e sviene sul posto. Ok. Ah, rollo per la tipa. Che ovviamente non se n'è andata, la stai tenendo per mano. Secca. Ora ha fallito, giusto? Sì, lo posso fare, ma sì, suppongo che non stia così tanto bene da poter aver successo, però è un caso di nuovo il braccio, io penso di no. Sì, ok, siete praticamente gli svegli, rimangono del party Nadone, quindi siete voi due lì. Che culo, ma ok, va bene. E insomma, Mif guardadone fa, converrebbe andarcene. Abbiamo attirato troppa gente qui, l'ideale sarebbe portarlo dal... perché non so cosa abbiamo visto. E Mif si guarda in giro intanto. Vedi qualcosa? Sì, c'è pieno di gente che ti sta guardando. Tra l'altro Mif è alta un metro e un cazzo, quindi il muro di persone ostruisce completamente la tua visuale dell'esterno. Però poi guarda, Lieto e Nibel sono addormentati. Sì. Però dice, ma cazzo li portiamo via? Tu riesci a portare ora? Sicuro? Sì, volendo forse riesco a portare anche Lieto. No, tu porta ora. Nel momento in cui... Buona fortuna con Nibel. Esatto. Cioè, non lo so, non ho idea di come svegliarli. Nibel pesa 120 kg. Lo so, però sì, coso. Adone può fare overpower, metti che usa la magia. Il coniglio di Adone. Sto pensando anche io, giuro, stavo pensando a quello, ridevo per quello. Ma se, cioè, se Mif ha svegliato Adone e ha tenuto addormentato Nibel stamattina, non può fare la stessa cosa con gli altri? No, cioè, perché svegliare... questa spella ha più versioni. Quella versione la può castare una volta al giorno. Questa qua la può castare fine esaurimento mana. Ok. fammi un attimo rivedere la scheda di Adone. Mannaggia signore. Andermif nota per caso. Lieto, dove ce l'hai il libro blu? Oh, bella domanda. Infatti, dove ce l'hai il libro blu? Il libro blu di I guess è venuto con me. Certo. Cioè, non l'ho mai mollato. È esterno? Sì, sì, sì. Mif lo può vedere? Te la metto in un altro modo. Ce l'hai in mano o l'hai messo via? Esatto. Sarebbe nello zaino, probabilmente. Ok, non l'hai mai detta sta cosa, ma lo diamo per buono. Mi fai un perception? Percezione di intelligenza. Anche perché aprono proprio parentesi è la cosa più sensata da fare. Sarebbe strano a prescindere avere uno zaino, un quaderno e correre con il quaderno in mano. Sì, sono a prescindere dal fatto che deve nasconderlo o meno. Cioè, vedi che c'ha dei dati. Sì, dai, sono d'accordo. Adone, mi fai un roll di arcano? Cazzo, mi chiedevi arcano. No, non puoi fare arcano. Non sai cosa devi guardare. 4 più 6 ho fatto 10. Pelo. Senti una traccia che è simile alla tua magia provenire da da Lieto. Non ci avevi fatto caso prima, ora che sono calmate un attimo le cose, noti questa cosa, però. Quanto è bizzarra come cosa, cioè è come se Lieto avesse imparato una nuova spell. Ok, ti faccio un'altra domanda. Penso, cioè Adone potrebbe pensare, ok, è qualcosa collegato al fatto che ha dietro un avatar, cioè ha imparato qualcosa che gli ha dato Arva. Potrebbe essere coerente con quello. Ok. Però altre robe da chiedergli. Va bene, non dico nulla comunque. E a questo punto comunque magari Adone dice... No, quindi ti faccio una domanda, vi ha rischiuso per paura di me, secondo te riesco a portare sia Lieto che Ora? Dammi solo un secondo, quanto pesa Lieto? Un'ottantina di chili, l'avevo scritto. In totale peseranno 130. 95! No, allora... 95, dice la scheda. Ok, sono 150 kg di cristiani. Dammi un attimo, hai più 2 e basta con overpower? E è come se facessi un test di sollevare con più 2. È un tiro difficile. Cioè, adesso c'è. Non voglio far meta, però cioè, non è che qualcuno può prendere le sberle. Chi è sì, si può fare. Si può fare. Era una soluzione facile, ma io non volevo. Infatti, no, pensavo non fosse scattata. No, non fare quattro. È Adone che è un bambino vittoriano e non riesce a sollevare neanche se stesso. Allora è pesante, cioè 50 kg da bagnato. Esatto, mi aspetta di svegliare. Take 10, ci mettete 5 minuti a fare sta cosa qua, ma finalmente vi svegliate entrambi con la gente che mormora. Sì. E svegliate sia Lieto che Nibel. Ok. Andiamo a svegliare di qui mentre... che... La pazza no, giusto? No, la pazza no. La pazza no, però io voglio svegliare Lieto e cercare di capire da dove proviene questa nuova magia. No, però aspetta, detto con uno spell. No, niente, niente. Cioè, no. Mi sveglio, mi scuoto un po' la faccia. Ha avuto successo, ce l'hai fatta. Guardo Ora, vedo che sta dormendo. Tolgo la giacca. Metto la giacca attorno ad Ora e la sollevo. Sì, perfetto. Leviamoci da qui. Lieto, che è stato svegliato da Adone. Lieto sente Nibel che c'è questa cosa. Sì. Adone ha fatto summon familiar e c'ha il coniglio che ti continua a scalciare in faccia. È tipo un pattone fenomenale al coniglio. È tipo... è sulle fino a male che mi viene. E, che cazzo? Il tizio... Il necromante che l'ha resuscitata è sveglio in zona. Ha fatto qualche passo indietro. Ok, tiro fuori un mana penny e glielo lancio. Lo prende e te lo restituisce dicendo: è quasi un favore per me. Poter rianimare una persona. Ok. Sì, sono gente strana. Andiamo prima che qualcun altro. Se è girato, cioè, tipo, sono all'università, quindi non è veramente quello che bello. Mi tiro malapenny, mi guardo un attimo attorno, vedo se c'è qualche faccia che, diciamo, è interessata in maniera sbagliata alla scena, non soltanto curiosi. Dall'alto, prima che voi andiate via, però tu per primo riesci a vedere che verso l'uscita dell'università la donna con i capelli bianchi e corti è con le braccia dietro la schiena in una posa plastica a guardarvi tutta impettita. Da lontano. Che riconosco essere la direttrice della... Sì, l'avete già incontrata più volte in questi giorni, quindi ormai la sua faccia vi è molto familiare. Se non la era già. Come la nostra, lei. Schiocco la lingua, consapevole del fatto che probabilmente la persona peggiore poteva vederci. E giro i tacchi. Per uscire dall'università dovete oltrepassarla. A meno che non vogliate imboscarvi da qualche parte. Dalla mappa lo potete vedere, lei è verso l'uscita, quindi verso... Qua? Sì. Ok. Tra le due. Ok. Che troia! Ok. C'ha un mezzo smirk. Vabbè. Allora, la mia idea è tipo partire a treno e... circunnavigarla, passare di fianco e andare via senza neanche guardarla negli occhi e... direttamente all'uscita, cercare di minimizzare i contatti con chiunque, lei compresa. Sì, sono d'accordo. Meglio. Lieto? Riesci a portare... mi sto attaccando a loro, praticamente. Perfetto, mi attacco la cintola di Nibel e vado. Fate spazio alla gente che vi lascia passare... Molti di loro stanno scrivendo qualcosa nei loro appunti e la donna vi guarda avvicinarvi a lei, non per vostra scelta ma perché dovete uscire. Quando siete abbastanza vicini da poter parlare gli uni con gli altri, guardando Lieto più che gli altri, dice: hai trovato quello che cercavi? Dietro la guarda e infila la mano nello zaino, prende tipo la pallottola del contratto che c'aveva, gliela sbatte tipo in mano e se ne va. Cioè, gli hai dato il libro? No, il contratto. La pallottola del contratto, cioè, per quello che... Sì, scusami, mi sono perso. Che è come dire che accetti il contratto. Scusa, ho capito che fosse una metafora. No, ha strappato il contratto in mille pezzi e se l'era ficcato. L'avevo completamente dimenticato questa informazione. Per questo oggi non ho riletto gli appunti prima di giocare e si vede. Ok. Bello. Bel take, ritorno. Ride. La prende su ridere la cosa, lascia cadere i frammenti e dice: tutti tornano a me prima o poi. E vi lascia passare, cioè non vi ferma fisicamente. E Adone a questo punto, quando siamo abbastanza lontani, dice a Lieto: cosa state cercando in biblioteca? In biblioteca stavo cercando una o più risorse su Arva alla fine della fiera. Sul culto di Arva e su di lei come divinità. E la... ci siamo imbattuti. Cioè, siete sul ponte della cosa. Vi sto facendo la dinamica. Sul ponte che collega l'università al resto della città, ci siete solo voi sul ponte. Il tempo è brutto, sta per piovere. Scusa. Quindi puoi fare quello che vuoi, non c'è nessuno che vi guarda. Ok. E una volta giunti nella sezione proibita della biblioteca, ci hanno fatto entrare senza problemi, alla fine studenti della Zenith, eccetera, eccetera. E faccio presente che comunque la sezione dovrà essere vuota. E il quando siamo entrati. E niente, descrivo l'uomo che ride. E la sua offerta. Due persone hanno una reazione, suppongo. E hai visto l'uomo che ride? Il coro uguale, cioè. Che e poi credo che ci guardiamo sai. Anche e ci guardiamo anche perché effettivamente settimo bello e poi entrambi verso meme dello Spider-Man. Lo avevate già visto? Sì, per motivi ti ha dato il libro? Tipo mi fa fa ti ha dato il libro? Il libro blu? Ti ha dato il libro? Il libro blu, yes, yes. Il libro! Tipo, mi fate fa... Oh, sono pazza. Ok, perfetto. Quel libro ti fa vedere sul nel futuro, Leto. Ah, e questo spiega... È incredibile. Il sogno che ho... Incredibile, niente, esatto. Quell'accordo. Stiamo ancora per strada, adesso. Sì, sì, esatto. Siete sul ponte, cioè è lungo il ponte. Possiamo discutere quando arriviamo al tempio? Ok. Va bene. E stavo per infilare la mano nello zaino e tiro fuori il libro blu e tipo hai vinto dentro la mano e hai vinto lo zaino vero. Fantastico. Io sto piottando, cioè non ho più pallida idea di che cazzo sia successo, cioè ho visto Ora morta e... Vissuta. La storia la porto al tempo di un fulmine segnala l'inizio del temporale e inizia a piovere. Ancora. Nibel ha ragione, comunque raggiungiamo la chiesa il prima possibile e parliamone là. È troppo importante questa cosa. E poi ci devi dire cosa è successo ora. Ma parliamone dopo. Corriamo. Insomma. Allora. C'è la mappa? La sì. Il percorso che avete fatto all'andata, voi tre, è stato di costeggiare il fiume. Il percorso che ha fatto Lieto è di passare per il centro città. Il fiume si sta gonfiando. Cioè, vedete chiaramente il fiume che con l'inizio della pioggia, eccetera, si sta accrescendo di volume, diciamo. Che strada volete fare? Quella più corta. Vogliamo sbrigarci o vogliamo farla più defilata? E io sarei per sbrigarci. Non ti sentiamo. Non so perché. Ero mutato. Il tempio è dentro le mura o fuori le mura? Allora, il tempio è fuori dalle mura e la strada più veloce è tagliare intorno alle mura. Però la strada verso le mura è più asciutta, diciamo. Che nella mappa è qua? Oppure... Aspetta che non la rompenti. Allora, il tempio è questo qui. Il tempio di Elos. Questa qua è la Zenhauser. Ok. E noi eravamo qui oppure il posto Voi eravate... Allora, qua quando ho posizionato il token. Poi siete andati qua e poi qua quando siete andati alla Zenith. Ora siete qua dal ponte di nuovo. Allora a sto punto conta che non c'è una strada e lì in mezzo non c'è una strada, è per quello che è un po' un casino passarci, perché se piove diventano acquitrini, cioè terreno difficoltoso. Adesso non posso farlo bene perché stanno posti sbagliati. Però costeggerei le mura e poi prenderei la strada principale probabilmente. Ok. Tutti d'accordo? Sì, bisognerà fare attenzione al fiume. Così cioè, mi sembra la cosa più safe. Chiaramente potremmo passare tra gli edifici. però metterci prima, però no, non so quanto sia safe come va benissimo. Passaggio. Vorrei sentire Adone e Lieto che confermano e poi vi descrivo. Sì. Perfetto. Il primo punto di interesse che incontrate facendo questa cosa è sì il muro della città, ma subito dopo c'è la stazione centrale di Apeira. Sta iniziando la pioggia battente e quasi tutte le persone sono sotto la tettoia, ad eccezione di una donna berber, con un occhio solo, che è fuori e vi sta guardando, vi sta fissando, mentre la pioggia la bagna, la colpisce insistentemente. Ha un mazzo di carte in mano, che sta mescolando. Esatto, è lei, è la stessa tipa! Oh no. Sai cosa, a dove... ti stacco un attimo dal gruppo e vuole andare dalla tipa berber. Il gruppo cosa vuol fare? Proseguire verso... Io in realtà vi dico andate avanti. Non mi pare il caso di separarci in questo momento. O andiamo tutti insieme o... È una cosa veloce. Datemi un attimo. Vabbè, andiamo dalla tipa, vabbè. No, andrei anch'io se mi ricordo... Come cazzo si chiama? Penso sia la stessa che ho visto anch'io sul treno, no? Sì. Aveva entrambi gli occhi all'epoca. È infatti. Tre giorni, cosa è successo? Ma per lei 15. E Adone va appunto dalla signora. E cosa che aveva fatto la prima volta che gli aveva offerto di prendere una carta? Non mi ricordo cosa era successo. Hai scelto il diavolo? Sì, lo so bene cosa avevo scelto, tranquillo. Quella era una reazione terribile. Sì. E lei sta mescolando gli occhi e fissa più te che gli altri, ma vi guarda tutti. Ok, Adone si avvicina e... Scusami, non mi ricordo proprio Sirio cosa... lei aveva detto di pescare una carta? Sì, era il gioco, era... E Adone si avvicina e parla alla tipa o non dice nulla? La tipa ti sta guardando mentre mescola le carte. Se non dici niente poi parla, però dimmi se gli vuoi, se vuoi dirti qualcosa. No, mi avvicino e le dico buongiorno. La previsione sembrava corretta. Tra l'altro c'ho le carte. Adone ha un piccolo sorrisetto sulla faccia e dice sì, credo che la previsione era proprio corretta. In un senso abbastanza letterale. Credi di poter cambiare il tuo futuro? No, vedo... per adesso non vedo motivo per cui volerlo cambiare. Perché nel tuo futuro, estrae una carta, il re di spade, c'è lo scontro. Di che tipo? Con qualcuno che ami. vedi che Adone si irrigidisce a quel punto e dice non c'è mai stato uno scontro che non si sia risolto in maniera pacifica. Lei fa un gesto assurdo, cioè dal tuo punto di vista è ti startla quasi sta cosa, ti lancia il mazzo di carte facendo in modo che le carte si sparpaglino in tutte le direzioni, fa tipo un pallone di carte e ti tira uno schiaffo. È molto alta, lei è più di 1,90 m, è magra ma lean, cioè c'ha i muscoli un minimo definiti. Secondo te Adone perderebbe l'equilibrio e cadrebbe indietro? Sì. Ok, era per essere d'accordo. Scivoli nel terreno bagnato, nel fango, e lei dall'alto verso il basso ti guarda e ti dice: non saresti mai dovuto nascere. Dietro la sente questa cosa? Se vi siete fermati ad aspettare Adone sì, altrimenti no. Sì, ci eravamo fermati tutti insieme, poi l'avevo capito. Sì, ci eravamo fermati. Adone si tocca un attimo la guancia la guarda con odio inizialmente, ma poi vedi che tipo un attimo si riprende e dice: potrò essere un diavolo, ma deciderò oggi di essere un dio benevolo. Ha un'espressione di disgusto estremo nella sua faccia, proprio riesci a percepire il fatto che vorrebbe sputarti in faccia, e si piega un pochino verso di te e fa: Dio benevolo, sai quanta gente è morta per colpa tua? E sai quanti altri moriranno? E tu cosa ne dovresti sapere, donna? Mi hai tolto tutto quello che avevo. E forse mi prenderò una piccola vendetta. Nel fango... A questo punto... A questo punto Adone si sente minacciato un po' troppo e credo che casti passione tormentata su di lei. Devi spendere un manapenne per farlo. Ce l'ho. Cioè, no, nel senso, vuoi fare quello o vuoi fare una spell che non abbia un costo? Perché le altre che ho è Summon Familiar, che vabbè, l'ho già usato volendo, Yu-Yu, Everytalk, Overpower, cioè... Ok, spacchi un manapenny. Che elemento scegli? Buono. Nell'acqua. Impugni un manapenny, lo stringi, fai per usarlo, ed è come se perdessi per un istante il controllo della tua mano e il manapenny lo frantumi invece che consumarlo. Si sbriciola, tutta la roba blu contenuta nel manapenny va a fluire dentro la tua mano e lanci un fulmine fortissimo nella sua direzione, così forte che il rombo di tuono si sente a grandissima distanza, così intenso che la donna viene spazzata via. Cioè, a sto punto penso che Mif letteralmente prenda Adone per le spalle, cioè, e lo tiri via, andiamocene da questo cazzo di posto, cioè... No, Adone è il primo che... cioè, lui si stava già tirando, con te che lo tiri vieni quasi trascinata via da lui. Per un istante, quando ti alzi, noti che le carte intorno a te sono state quasi tutte incenerite dal fulmine, e rimangono solo 3 scoperte, in ordine... Il diavolo, la torre e la morte. Ah, yes. Questo è decisamente un no Tommy use pesante. Assolutamente no, non vedo perché dovrebbe. La donna, vedi, bruciata. Che Adone comunque si sta guardando, si sta tenendo il braccio da cui ha spaccato il manapenny, scusa. La donna, lontana, bruciata dal fulmine, eccetera, tossisce, si rialza a fatica, cioè non riesce a ritornare in piedi, si mette tipo sdraiata per terra con il collo su, e ti guarda, e sembra avere uno smirk anche lei in volto. Come se ogni frammento del suo puzzle fosse andato al suo posto da solo. Adone corre via spaventato di quello che ha fatto, perché la sua intenzione, per quanto fosse sì di ferirla, era solo di paventarla, autodifesa quasi, sicuramente non fare quello che è successo. Perfetto. Reazione degli altri se l'avete, altrimenti andiamo avanti. Nibel tiene ora... tiene ora in braccio così e si è girato di schiena per fare da scudo per l'impatto del fulmine, e quando il suono si ritira, le orecchie smettono di fischiare, mi giro verso la scena per vedere quello che è successo e semplicemente chiedo agli altri: cosa cazzo sta succedendo? La conoscete anche voi? La reazione di Mif è stata correre, cioè verso Adone appunto, e cercare di tirarlo via, e nel mentre che lo stava tirando via, che non avevo finito prima, dice: quello assomiglia, complimenti, è una delle folgorette d'altra volta, andiamo. Adone è terrorizzato in questo momento da se stesso. Io ho sentito il discorso, era troppo lontano. Sì, l'hai sentito. Adone adesso sta camminando. Sì, sì, sta, stanno Adone sta scappando. Io scambio uno sguardo con Lieto per cercare di capire cosa fare. Lieto ti fa tipo un gesto, cioè arrivo, vai. Io guardo negli occhi la donna prima di allontanarmi. Ha un solo occhio? Cioè, sì, nell'occhio. Okay. C'è rammarico nello sguardo di Nibel. E nel suo c'è solo odio. Le sussurro, non so se mi sente. No, siete lontani. Cioè urli oppure non sente niente. Sto sussurrando lo stesso, non so se dal labiale lo capisce, le dico mi dispiace e comincio a muovermi verso, per andare verso Mif e Adore. Ho una domanda, Pjanic. Io il braccio me lo sento diverso di fatto? È proprio il tuo braccio. Braccio. Okay. Niente, Adone sta cercando di raggiungere il più velocemente possibile appunto il tempio. Ok. Tutti d'accordo, certo, di questa cosa qua? Correte sotto la pioggia. Io volevo rimanere indietro rispetto a loro. Ok, vuoi fare qualcosa in particolare o solo... Volevo avvicinare anche la donna. Ah, proprio andartene, perché lei è rimasta seduta sotto la stazione. Sì, di quella loro di andare in avanti. Ok, ok, scusa. Perfetto, loro vanno e tu torni da lei. Cosa vuoi dirle? Ancora le carte? No, cioè, quelle che stavo usando prima ne sono rimaste tre e le altre sono incenerite. L'altra domanda è, gli altri vi vedono? Gli altri? Mi vedono? O sono abbastanza lontani? E piove, quindi se si girano vedono una macchia, cioè vedono poco. Mi sposto un attimo di distanza. Ma stai scherzando? Certo, il punto è che cosa faccio di lei? Me ne vado? Sì, esatto. Ok, devo spostare prima lei di distanza e poi sposto lei. Vai a cagare. C'è un ragazzo molto grande. Salve. E accoltello la tipa nell'altro occhio. Non faccio domande. È in una stazione in cui non è in grado di reagire a niente. E no. Ok, quindi lo fai e basta. Yes. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi fare dell'altro? Vuoi dirle qualcosa? Yes, cringe, yes. E... Vabbè, queste sue qui fortune. Bello. Con un filo di voce. Non la stai uccidendo, ok? Giusto? No. Ok. Con un filo di voce lei dice... La tua fortuna non sarà fatta da te. Arriverà il giorno in cui tutti i nodi verranno al pettine. E in quel giorno vedremo se perderai qualcosa di più di un occhio. Non ho più niente da perdere. Meglio così, allora. E me va. Perfetto. Ti risposto giù. Vai. Chi è che ha messo Suicide Squad come nome della... Lo messo no! Io. L'ho messo io all'inizio sessione, non ci avete fatto caso. No, non so. Ma tra l'altro, ma aspetta, ma l'hai fatto dopo che ha fatto quella roba di Ora? All'inizio quando c'era Ora che si è buttata, l'ho messo su. Ah, ok. Lieto ha finito il lavoro? Non ti dico un cazzo, non hai visto nulla. Va bene. Io non sto guardando indietro, io sto... No, no, no, Adone vuole andare a casa e ammazzarsi, forse. E ciò sto facendo Princess Carrie di ora, la coperta completamente con la giacca per evitare che si piglia la pioggia. E niente, sarà da cagare. Bisogna aspettare un attimo, scusate. Ma che dire, Pianis? Ogni nuova sessione è un nuovo trauma. Sono proprio con te. Poi... Ogni sessione parte diviso. Non ho mai visto una campagna col party così poco. Siete in 4! Cioè, siete in 4! Non siete in 30 che dici, vabbè. Non guardare lo schermo, per favore. No, per carità, dobbiamo solo ridere. No, è vero, perché poi per assurdo ha tipo sempre senso. Cioè, non è completamente a cazzo. Cioè, ogni volta ci dividiamo anche per dei motivi sbagli. Sì, sì. Oh, poi le scene sono interessanti e non occupano troppo tempo. Stiamo parlando di un problema. Basta di due tacche volume, per favore. Sì, questa è importante, ma non è una roba lunga. No, no, ma figurati, va tranquillo, cioè, sto scherzando. Cioè, ho giocato altre campagne dove ho dovuto rimanere 40 minuti di roll tra due giocatori che si scazzottavano e dovevano rollare per vedere se colpirsi a vicenda. Però Serra, porco Dio, guarda, se no abbiamo fatto tipo una campagna che era solo quello. Wow. E gli altri 40 minuti di descrizione inutile del master. Ah, ciao Giuliano, ci sei anche tu. Condivido l'esperienza. Retweet, reblog. No, io comunque apro una parentesi. Io tipo mi ero quando hai detto quella cosa di una creatura con troppe ali e una creatura meccanica, ho detto ma no, dai, non saranno mica Thanasia. Ho cercato di autoconvincermi. E invece no, ma si risolve tutto, gli do una... non c'è niente che una bella succhiata di cazzo non possa risolvere. No, tranquillo amore, fidati di me, fammi fare a me, diventi un dio, tranquillo, non andrà tutto bene, vieni qua, fatti succhiare il caso, non preoccuparti. Ma sei di metallo, tranquillo. E comunque, se sento ancora una volta usare tuono per indicare i danni elettrici, io divento pazzo. Perché sarebbe il tuono è il suono. Il tuono è il suono, sono d'accordo. Pezzo di merda. Il tuono è il suono. Saetta, fulmine. Vero, verissimo. Adesso scrivo un intero altro gioco con peraltro lore in cui la lingua è identica ma l'etimologia di suono e lampo sono invertiti. E il lampo è la luce, il lampo è la luce, Cristo, anche tu Ica. Bianca, stai registrando la sessione, non grazie, dopo voglio questo pezzettino, me lo metto come suoneria, ci sta la mattina. Il lampo è la luce. Quello che ti fa danno è chiaramente la luce. Ti fa danno in modi diversi. Sono successe così tante cose in questa sessione. Sì, non vedo l'ora che farai il riassunto nella prossima. Oppure ho preso gli appunti bene. Aspetta, guarda, a parte quest'ultima sessione. E quanti appunti hai preso? Sì, esatto. Una schermata minchia. Ok, siamo addirittura d'arrivo anche come master, figuriamoci come giocatore, sta tutto fissato nel mio cervello, lo siamo. No, ma infatti dimentico alcune cose se non li guardo gli appunti, a memoria non ce la faccio tenere tutto. Dicevo, siamo addirittura d'arrivo, state percorrendo la strada principale, cioè siete arrivati alla strada principale che collega tutta il quartiere nord, che si chiama il quartiere nord, bocciata l'esame di Fate. Quartiere nord. Ecco la che. Non ricordo neanch'io. Vabbè. È bocciato l'esame. Kainoi. Ho recuperato. Dai, 18 e via. Esattamente. La strada principale di Kainoe, E siete molto di fretta, cioè diluvia, c'è una brutta situazione, non c'è nessuno. Io li ho aggiunti correndo, tipo. Sì, sì, sì, sì. Sono... sì, sì, sì, non c'è problema. Siete un party unito, hai visto? Siete a 200 metri dalla chiesa, cioè la vedete, nonostante il brutto tempo, non c'ha il campanile, però c'ha l'aguglia più chiara che si vede rispetto agli altri edifici. E per strada c'è una donna barcollante, vestita di nero. Non vi sta nemmeno, non vi ha nemmeno notato, cioè sta proprio camminando aimlessly verso il centro città. Io più di nubia, quindi non vedete molto bene. Ha la testa coperta da qualcosa per ripararsi dalla pioggia. Non siete obbligati a interagire, gli dico solo che c'è questa persona. Prego. Mi fai curiosità. Io piotto verso la chiesa. Abbiamo uno che sta andando verso la direzione giusta, gli altri tre. Una che sta andando verso la direzione sbagliata. Adone la guarda e... ricordandosi delle carte, ha quasi l'istinto di tirare una setta pure a lei. Preventiva. Esatto. Non si sa mai. Ma decide di forse smettere di fare cazzate per 5 minuti e tira dritto. Lieto? Lieto alza un sopracciglio, guarda Nibel che va verso il posto giusto, con le virgolette, guarda Mif e segue Mif. Bravo, bravo. Si sono separati di nuovo. Due più un corpo. Posso dire una cosa, che Irl, questa cosa che stiamo facendo è pazza proprio, cioè non so come spiegarlo. E poi quel diluvio universale, capito? Lo farei anch'io in realtà, come giocatore sono curioso, però ho fatto il personaggio babbo e quindi... Io stavo per tirare una saetta. Non ho guardato. No, ti devo guardare io. Perché mi devi guardare? Oh mio Dio, che bella cosa che sì, esatto. La persona alla quale vi siete avvicinati è alta 1,60 m. Ha un cappuccio, è vista di nero. E le cuciture del suo vestito sono d'oro, cioè di colore dorato. Da lontano non si vedeva, ma ha una maschera che le copre il volto. Una maschera nera, di un materiale duro, tipo un metallo. E ricorda vagamente un leone, cioè la parte alta della testa di un leone, con due denti sproporzionati per il resto della faccia, che scendono così. Sta barcollando, nel senso che cammina come se fosse ubriaca, stordita. E vorrei che mi faceste Lieto un tiro di investigare e Mif un tiro di quello che preferisci tra arcano, religione e percezione. Arcano. Prego. Ho fatto 10. Sì, certo. Quanto hai di 7 investigare, e... Lieto? 3, sarebbe un 9 il mio. Arcano più 8. Quindi hai fatto 25, 24, perfetto. Lieto, noti che questa persona ha i sintomi non dell'alcolismo, ma di un'altra cosa. Okay. Che ti è familiare. Non ti dico altro, okay, perché hai fatto 9, ok? Ok. Benissimo. Hai presente che nei Pokémon c'è l'abilità che se un nemico ha una mossa super efficace rabbrividisci? Per 4. Super efficace per 4. Minchia. Sì. Okay. Riesci proprio a percepire, la percezione arcana è che questa persona ha una quantità di energia folle. Non ha nessun senso che una persona sola abbia così tanta magia dentro di sé. Siete liberi di fare quello che volete. Mi penso che a sto punto l'abbia riconosciuta. Sì, ho aperto il folder Maria Reziari, quindi forse hai riconosciuto di questo. Non ho letto. E niente, cioè Mif le mette una mano sulla spalla, ok? Cioè, tipo, nel senso sì. Non è che gliela mette da dietro, vedi che l'affianca per farsi notare, perché sia mai che la sgozzi in quel momento. Sei pazza. Sì, esatto, sono fuori di testa. La picchietta e fa. Maria, A nome Maria, cioè io devo fare tipo, eh? Excuse me, what the fuck? Tocca mettere la sigla di Maria. In realtà questo deve essere foreshadowing per la prossima sessione, ma se lo volete fare ora, chi cazzo sono io per impedirvelo? No, basta questa canzone di merda. E insomma, c'ho tutta una cosa scritta. Faccio tutta la descrizione a sto punto. Solitaria con i vestiti sgualciti, la divisa nera con cuciture d'oro, perfettamente realizzata per replicare le sue forme, adeguarsi alle sue forme. Poco più di 1,60 m, capelli a caschetto castani, il volto coperto da una maschera nera e lucida, reminiscente di una bestia felina con enormi zanne. Nessuna arma, nessuna borsa, niente di niente, come se dovesse essere chiaro a tutti che non ne ha bisogno. Marcolla cammina incerta, come se avesse degli spasmi, come se fosse fuori di sé. E tu l'hai detto? L'ho fatto con tonno a Maria. Ci conosciamo? Non si è sentito, sappiamo. Ci conosciamo? Che mi fa un attimo, tipo... sono un mito. Sai, Porto Leone, tanti anni fa. Lei sta barcollando e fa un movimento tipo da Drunken Master, ok? Per cui è vicino alla mano alla tua gola e una lama compare dal nulla verso di te. Ho una vaga memoria di questa cosa. Biascica mentre parlo, ok? È proprio stordita. Stai bene? Tipo, cioè, mi fa alzato le mani, tipo, stai bene? Tira su col naso, mi fa proprio... Non direi. Hai bisogno di aiuto? Posso dartelo. Fa cadere la lama, cade proprio per terra, fa un clac clac come fosse una lama vera, ok? Niente che tu possa fare. Quanto tempo è che non lo sentivi? Cosa? Lui? Sta tremando. Chi? Naya, intendi? Esatto. Settimane? Quanto era? Quanto cazzo era? Biane, cioè, non me lo ricordo. Puoi dire quello che vuoi. Qualche settimana prima del martello d'Africa. Immagino non sia colpa tua allora. E inizia ad andare oltre. Perché le donne sono così tutte difficili da prendere? Okay. Allora. Mif veramente, cioè, le corre dietro, no? Fa... Tu non stai bene, hai bisogno di riposare. Ho un posto dove puoi riposare e possiamo cercarlo insieme. Gli hai avvicinato la mano o qualcosa? E tipo, gliel'ho fatta vedere, non la tocco, non voglio un'altra lama. Ti scaccia la mano e aggiunge... Non ho bisogno di riposare. La gente è nel col mio grado. Non si può permettere di riposare. Ah, però si può permettere di bere, certo, ovvio. Oh, ma io non devo. E continuo ad andare. Ah. E prego, sì. Vai. Io si avvicina e le fa capire che se è interessata può trovare delle altre delle cose che sta prendendo probabilmente. Se vuole venire con noi, si può fermare. Ce ne saranno in quantità, nel caso. Scoppia a ridere, proprio risate isteriche, cioè proprio fuori controllo, quasi inquietante questa cosa. E si piega proprio a ridere, si rialza, si mette a posto i capelli, sotto la pioggia è completamente inutile questa cosa, e dice, non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. Ho delle lettere da parte di Naya. E cioè, Miff questa volta la guarda dritta negli occhi. E lei crea un gran numero di lame che come un'aureola la circondano. Ti guarda straight. Vabbè, tu non le vedi gli occhi perché ce l'ha coperta. Però capisci che ti sta guardando dritta negli occhi. Non pronunciare quel nome. Non lo pronuncio, ma se vuoi ho delle informazioni. Non c'è niente da sapere, so già tutto. Mi piacerebbe solo sapere di chi è la colpa. non ho risposta a quello tema. I suoi amici li abbiamo presi quasi tutti. Mancano un paio. Ok, vedi che mi fa. Ah sì? Chi? Quello di Falchena. E l'ultimo non sappiamo chi sia. Ma li troverò. Vince lancia un'occhiata lieto e fa. Mif fa tu hai finito qua. Ok. Mif poi si gira verso Maria e fa cosa ci guadagna? Oh, bellina questa cosa. Il punto è che lei è pazza. Esatto. E quindi dice, io sono una cacciatrice, non mi interessa avere la preda già morta, la voglio uccidere io. Mm-hmm. Per lei non me ne frega un cazzo di quello che hai da offrirmi. No, stavo... Non caccio per te, io sono un collaboratore. Si gira e inizia a camminare nell'altra direzione. Ha avuto la sua occasione, I guess! E mi fa... Se vorrai sapere qualcosa, siamo qua. Utilizza il plurale. Probabilmente ti ha sentito, ma sta continuando ad andare certo, in una direzione a caso. Si gira. La senti su... parlare da sola, ok? Ad alta voce ma da sola, e dice qualcosa come diru, se fossi una dea dell'oro dove andrei a nascondermi? E va avanti. Mamma. Nell'ordine siete entrati nella chiesa, poi andiamo verso il finale. Qui era un bel momento per chiuderla, ma volevo fare la scena con loro. Entrate nella chiesa, prima chiaramente Adone e Nibel e il corpo di Ora, e ad accogliervi c'è il sacerdote che ha appena finito di riparare il muro e quindi sarebbe molto grato se cercaste di non spaccare dell'altro, poi vede che avete Ora lì e dice cos'è successo? Sei mutato. Dove sono i medikit? Ti indica il luogo, cioè l'angolo in basso a destra della chiesa. Lo scanso, vado verso la macchina dei medici. Il sacerdote quindi si gira verso Adone aspettando una risposta. E Adone è bagnato fradicio e si sta tenendo il braccio sinistro, quello con cui ha fatto tutto quel casino. E sta tremando, guarda il sacerdote poiché gli dice... è andato tutto storto. Non doveva andare così. Si siede su una delle panchine, si tiene così la testa con i gomiti sulle ginocchia, tenersi sulla testa. Ok, ti si siede a fianco, ti... Sì. Non mi viene il termine. Poggio ora a terra, guardo la macchina, tipo, incomincio a tirare il dischiaffone alla macchina. Come si usa questo coso? Attiri l'attenzione del sacerdote, che prima si assicura che Adone stia bene. No, però... Lo vedi lì che sta un attimo farfugliando qualcosa fra di sé. Ok, penso che non ti ucciderai nei prossimi 30 secondi. Arriva da Nibel e dice devi solo posizionarla davanti e tirare la leva. La macchina inizia a fare le sue cose, i tessuti di Ora iniziano ad aggiustarsi, i rumori che senti non sono belli perché sono i rumori delle ossa che tornano a posto. Probabilmente c'ha le braccia completamente viola per i lividi, per quanto forte o stretta. Il colore molto lentamente inizia a cambiare, ritornando a un colore normale. Alla fine del processo della macchina sarà aggiustata, ci mette un paio di minuti, ma rimane addormentata se non la svegliate. Ciao Mirko. dopo, quando è a metà di questo processo, diciamo, entra Lieto dalla porta. Sapete che ho appena visto e guardo Adone. Adone si era, quando aveva sentito entrare subito, era scattato su, non è, non si è alzato, ma si è scattato a giro, cioè tirato su scatto, guardate, dice, chi hai visto? Maria. Rezziari? Maria Rezziari. Adone ha uno scatto, si alza, tira un pugno sulla panca e dice, pure quella troia è venuta a dare fastidio. E tu vedi... che è proprio a momento culone di breakdown, dice non è possibile come ci ha trovato, non è importante il come, tanto avrà chissà quale magia, quale abilità, perché deve venire a darci fastidio, non ha una bella faccia e non penso sia, penso sia meno sana di mente dell'ultima volta che l'hai vista. Lo è mai stato? No, dobbiamo... Senti tutto, Nibel, di questa cosa. Dobbiamo trovare il modo di andarcene a questo punto. Io ricopro ora fino a qua con la giacca e mi avvicino velocemente agli altri. Siete voi tre, Nibel, non è ancora arrivato. Sono visibilmente molto agitato e anche parecchio incazzato in questo momento. Share the sense, cioè Adone condivide i sentimenti e dice dobbiamo andarcene il prima possibile da qua. Perché? È arrivata una dell'impero, forse credo che una delle più alte cariche dell'impero, sicuramente. Lieto ti fa sapere che probabilmente... cioè, nell'impero già non andava bene la roba, da quello che si era saputo, e questa non c'ha una bella faccia in nessun senso. Cioè, né sanità mentale, né... No. Non sembra appartenere all'impero in questo momento, mettiamola così. Questa qua... ci ucciderebbe a vista, non importerebbe quante persone siano attorno o cosa stiamo facendo. Se scopre che siamo qua, sarebbe disposto. Quando dici scopre se siamo qua, si apre la porta della chiesa. Sì, Adone, poi dico chi entra, però prima della reazione. Prima di sapere. Adone fa con la mano sinistra a prendere e tenere in mano un manamento. Cosa che d'altro? Ed è Nif. Sgola. Se mi fulmini un'altra volta, ti faccio passare le pene dell'inferno. Non mi fai paura, Nif, non con Maria Rezziari in giro per le strade. Tipo... non ti colpisce che sappia chi è? E tipo... No, prima... Aspetta, una cosa alla volta. Nif che ti guarda, poi guarda Lieto... gli fa tipo così e poi fa, sai chi sei? Cioè, sai chi era? Come fai a saperlo? Certo che so chi era. Come fai a saperlo? Era la... Oh, porta troia. Senti proprio Adore che dice così. Era quella che era uno dei soldati che ci è venuto a prelevare, che ci ha seguito. Lei e Naya si conoscevano, no? Sono amici di vecchia data. Ah, proprio vi fa. Interessante. A quanto pare è a caccia. No? Non mi dire. No, questo è una pessima cosa. Dobbiamo andarcene. Ah, oddio. Non lo so. Non era interessata in nessun modo. Quindi saremo tranquilli. Interessata a cosa? Ho provato a vedere quanto effettivamente si poteva attecchire la sua morale, ma a quanto pare l'alcol o gli acidi sotto cui erano troppo forti. Purtroppo... Quindi tu proponi di rimanere qua in città con lei che va in giro per le strade? Palesemente sta cercando te e il dito. Ha detto che gli altri sono già stati presi. E non ho capito se ammazzati. Questo non l'ho capito. E... però sì, insomma, cioè io ho degli interessi riguardo a questa persona. Qualcuno... se l'unica faccia che conosce. La faccia di Adonia è l'unica che Maria conosce. Lieto non sa che faccia abbia. Adonia si gira verso Nibel a questo punto. Quindi qualcuno che vuole ammazzarti è venuto qua in città? Sì. Che si mette in fila. L'avrebbe detto il vescovo se non lo dicevi tu. Adone a questo punto fa un passo indietro e dice: vi state rivoltando contro di me? Ok, il vescovo si avvicina e dice: no, è più che da quando siete qua sembra che le cose non stiano andando bene per nessuno. Faccio notare ad Adone che io prima o poi me lo devo mangiare. Tu hai probabilmente ammazzato Ora! Indico Ora appunto sotto il... è vivissima in questo momento, non accetto remo su questa cosa. Cos'è successo in biblioteca? Mancava... per fargli sapere loro mancava solamente la visione che ho avuto dal libro azzurro. Manca tutto! Al vescovo manca tutto. Ah vabbè, al vescovo sì! No. Vabbè, devi informare anche il vescovo di questa cosa. Cioè, ormai è un personaggio grande il vescovo. E siamo la sua telenovela preferita. Come ha fatto a cadere? Perché si è buttata dalla finestra? Perché qualcuno l'ha buttata giù? No, nessuno l'ha buttata giù e ha cercato di suicidarsi. E tu non sai il motivo di questa cosa? Deve aver avuto una visione simile a quella che ho avuto io, aprendo... tolgo lo zaino, tiro fuori il libro azzurro. Questo. Sì, è proprio familiare. Wow. Descrivo la visione che ho avuto dei due mostri che combattono tra di loro. Adone, vedi che già aveva addosso tutto il peso del mondo a questo ancora. Lo distrugge sapere questa cosa. Fa 2 più 2. Cioè, piace. Fa 2 più 2, immagino. Hai una buona teoria al riguardo, quello sì. E ora deve aver visto qualcosa di terribile. Ha farfugliato delle cose sufficientemente incomprensibili. Ha fatto saltare in aria una finestra e si è lanciata di sotto. Ha cercato di ammazzarsi anche quando si è svegliata, no? Prendo la mia boccetta con il liquore, la chiudo, la sbatto sul petto a Lieto e gliela lascio lì con un'espressione furente e ritorno da Ora a vedere come sta. Perché se si se riprende i sensi, se incomincia di nuovo a fare cazzate, qualcuno la deve tenere fermo. Miff vorrebbe prenderti il libro. Nel senso che lo prendi per rubarlo? No, cioè, fa... posso? È letteralmente tutto tuo, divertiti. Tipo, vedi che ti fa proprio un sorrisone, fa... errore da matita rossa. Esatto, tipo... sapevo ti sarebbe piaciuto. Quanti anni è che sono passati? Un po'. 7? Sì. Esatto, tipo fa. Sono passati 7 anni da quando ho visto un libro del genere funzionante. E tipo lo apre, lo guarda. Lo apre la prima pagina? Sì. Ok. Nella tua testa e di tutti quelli che stanno guardando il libro in quel momento viene flashata l'immagine di un'isola al largo di una costa, e l'isola non è enorme, però c'è una città sopra, quindi tutte le case, cioè, quindi deve essere un'isola di discrete dimensioni, cioè non è la Sicilia, ma è comunque un... E davanti all'isola c'è una creatura, una specie di serpente marino con braccia umane, che è colossale. Il suo busto è più largo dell'isola, ok? È gigantesco, veramente mastodontico, enorme, e ha le mani in preghiera sopra la... cioè davanti a questa città, e c'è un rosario che non si capisce come possa essere così grande, fatto, sembra fatto a mano ma di dimensioni folli, che gli gira intorno alle mani e pende verso il basso. E l'unico altro dettaglio che notate è che c'è una centrale di mana nell'isola, cioè si vede chiaramente la forma della centrale di mana. Hai l'istinto di chiudere il libro? Sì, sì, mi fa, lo richiude e fa. Scusate un secondo. C'è papà, notte. Dice adesso di dormire. E Adone porge la mano verso il libro e dice: posso? Certo, ti piacerà o non ti piacerà, certo. E apro a caso. Ok, tutti quelli che stanno guardando il libro, quindi immagino voi tre, perché Nibel è fuori da questo gioco, sì, giusto? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, non lo vedo. Viene, in realtà ho la descrizione, forse se la leggo è meglio. No, non posso leggerlo così. Ok, sei all'interno di un edificio bianco di marmo, non riesci a capire bene i dettagli di questo edificio. Al centro di questa struttura, che non è una stanza, sembra più un tempio, nel senso, hai presente i templi romani aperti, insomma una cosa del genere, invece di esserci un altare, un santuario o qualcosa, c'è un oggetto meccanico. E in modo molto laterale sembra c'ha dei numeri, c'ha delle piastre con dei numeri molto leggere che si girano, cioè gli ultimi numeri si girano velocemente ogni secondo, mentre i primi sono immobili. E questa struttura è interamente meccanica, si muove autonomamente, quindi è futuristica, diciamo. E in questa visione tu ti stai avvicinando, e quando ti avvicini i numeri, invece di andare avanti, iniziano ad andare indietro, e tu inizi a tornare indietro, e questa cosa si ripete, cioè vai avanti, i numeri vanno avanti insieme a te, e poi ritornano indietro, tu ritorni indietro, e così via. Chiudo il libro, provo a riaprirlo di nuovo. Dobbiamo fare questo gioco? Quando riapri il libro per l'ennesima volta, vedi una figura vagamente femminile, più, posso usare questo termine, inshallah userò questo termine, angelica. Coglione. E, come se avesse la pelle fatta di un materiale lucido, di cristallo, ok? Non è alla vicina, ok. Un materiale lucido cristallo, o vetro soffiato addirittura. E questa persona sembra femminile perché ha una parvenza di seno, ha... non hai capelli, quindi non posso dirti che hai capelli lunghi o corti, cioè è un blocco unico di materiale lucido, e ha delle ali fatte interamente di catene. E in questa visione che avete voi tre che lo state guardando, questa persona viene verso di voi col chiaro intento di attaccarvi. Ok, il libro. Lieto strappa il libro di mano ad Adone. Ok, molto bene, perché Adone stava per riaprirlo. Ma sei coglione, non capisci un cazzo, però, insomma. Mi guarda con uno sguardo pazzo a questo punto degli occhi. Però non ti risponde. lo prendo per un sì. Ok, meglio tenerlo fuori dalla portata di Adone. Sì, sì, direi che lo tengo io questo, eh. Sì, sì, sì. Direi, insomma, rimani a me. Aprirò con parsimonia. E... Parliamo... Vai, dimmi, fai quello che dici. No, vai. Ok, io andavo verso il finale della sessione. Sì, no, infatti mi rimaniamo, vai. Ok. Ci sta. Si sveglia ora. Stavolta, insieme al suo risveglio, avvertite una vibrazione nell'aria. Tutti, cioè come se ci fosse qualcosa che è cambiato nel mondo. Vi chiedo cosa volete fare tutti uno per uno. Lei ha gli occhi spalancati ed è immobile al momento. Lo sappiamo? L'avete sentito? Quando sono svegliata è come se avete sentito una vibrazione. Io sono lì al capezzale. Io sono lì di fianco a lei. Sì. Si vede che comincia ad agitarsi la placca di nuovo per le braccia. Penso che Miff si avvicini, perché se deve castare di nuovo i romanzi, lo deve castare, cioè. Gli altri? E Lieto si avvicina per vedere come sta, I guess. Io sto attento a dove ha messo il libro Lieto. Dove hai messo il libro Lieto? Lieto c'ha il libro sotto braccio a questo punto, cioè l'antifona l'ha capita. Mentre ti avvicini a lei, mentre Adone ti guarda, non sai bene dire come è successa questa cosa, se ti ha distratto Adone guardandoti eccetera, scontri una panchina e perdi equilibrio e cade il libro per terra, aprendosi a una pagina. Potete usare la memoria se ci tenete, ma io eviterei su questa cagata. Lo dice lui. La pagina in questione dà una visione che vedete tutti, e la visione contempla ora, con le braccia aperte, crocifissa, e dietro di lei c'è un uomo, del quale riuscite a vedere solo la bocca sorridente, che muove le dita sopra di lei come se fosse una marionetta. E questa è la prima volta che sentite del suono dal libro. Finora erano immagini, non erano suoni. E quello che dice è: hai cercato così tanto la verità che alla fine l'hai trovata. E dimmi ora, ora che fai? Il libro rimane aperto, quindi a meno che voi non facciate qualcosa, questa immagine, questo suono continua a ripetersi a oltranza. Adone va per prenderlo e chiuderlo. Ok. Quindi prima di Adone. Non lo so, Adone era pronto a scattarlo a prenderlo, eh. Però non ho voglia di. Cioè, di far tiro contro il posto. L'importante è che il libro sia chiuso, it's fine. No, Adone si va, lo fa per chiuderlo. Ora parla, stavolta sembra completamente cosciente, cioè pienamente in possesso delle sue facoltà mentali per la prima volta nella sua vita, e dice: quello è il mio destino, per cui è meglio che io muoia ora. E io la chiuderei qua. Ci sto. Sì. Pam, faccio.